Ciao a tutti e benvenuti al quarto episodio del podcast del Tentacolo Viola. Anche oggi, insieme ai soliti tre noti, ovvero il sottoscritto Davide Moretto, Gianluigi Briguglio, ciao, e Andrea Maderna, ciao. Dicevo, anche oggi abbiamo un super ospite, l'uomo che venera come un dio John Carmack, l'uomo che ha avuto il coraggio di dire che Half-Life 2 è troppo lungo, direttamente da multiplayer.it, Pierpaolo Quakeman Greco. Eccoci, tra l'altro hai fatto una presentazione per te, hai messo in fila due cose che mi faranno odiare dal 90% della gente, che Carmack ormai è come se non esistesse più, Half-Life 2 che è una mezza cacata, mi hanno massacrato in tutta Italia praticamente per quella frase. Quindi io devo dire che ho letto Master of Doom, che tra parentesi è edito da multiplayer, e invece George Carmack è veramente un dio. Comunque di questo magari ne parliamo dopo. Caro Pierpaolo, dici un po', ci sarà qualche persona che ascolta noi e non ha mai ascoltato, ne dubito, il podcast di multiplayer.it, se vuoi dire un attimo chi sei, cosa fai di bello. Perché esisto, esatto. Non si può mai dire, anzi, ben venga, appunto, c'è qualcuno che non ci ascolta, è un po' difficile che faccio, insomma, seguo multiplayer.it per l'appunto, le pubblicazioni, insomma, l'editoriale, tutto quello che riguarda l'editoriale, e a te Davide l'ho conosciuto, posso dirlo l'aneddoto che fa sempre ridere? La voglia. Praticamente è stato uno dei nostri primi, penso fra i primissimi ascoltatori a mandarci domande audio, e l'avevamo soprannominato l'uomo macchina, l'uomo che sta in macchina, perché mandava le sue domande praticamente dal cellulare, registrava sul cellulare mentre guidava, quindi si sentiva sempre in sottofondo queste accelerazioni incredibili, questi cambi di marcia stupefacenti. Poi nel tempo gli si è rotto un microfono e si è evoluto e si è messo lui a fare un podcast molto molto divertente, devo dire la verità, me lo ascolto sempre con grande piacere. Detto questo, che altro dire? Vabbè, multiplayer.it, appunto, scriviamo di videogiochi ormai da mezza vita e io ho iniziato la mia vita appunto videoludica, abitavo... Pronto? Ecco, mettiamo il pulci, ecco il telefono. Dicevo, ho iniziato la mia vita videoludica in provincia di Roma, poi mi sono spostato in Terni perché la redazione multiplayer è a Terni, ormai quasi 5 anni, seguo appunto fisso tutto il giorno, gioco, mi piace dire, agli zii, i parenti dicono che cazzo fai tutto il giorno, tutto il giorno gioco ai videogiochi, ah che bel lavoro, bla bla bla bla bla bla, milioni di altre cazzate. Oppure ti dicono, sì vabbè, ma che lavoro fai veramente? Sì, ma ti pagano? Esatto. Ma riesci a dire tutte queste cose qui, quindi assolutamente sì, no? Vabbè, insomma è divertente, è piacevole, ha moltissimi risvolti rompicazzo, però come tutti i lavori. È inutile che dica qualcos'altro perché tanto diventerebbe soltanto ultra noioso. Ok, va bene, allora, come è capitato anche con Gatsu la volta scorsa, sarai bersagliato da qualche piccola domandina, giusto così per rompere il ghiaccio, poi partiamo con le... Dice ghiaccio? Ghiaccio, esatto, sì, perché siamo dei signori, noi, e poi partiamo con gli argomenti del giorno. Se posso iniziare io, che è una cosa molto podcastiana, a me è sembrato che nelle ultime puntate, diciamo, sia cambiata un po' la formula, a parte che avete inserito Umbertino Moioli come ospite quasi fisso, se non è a Londra, e poi mi è sembrato che ci sia proprio più verve del tipo un po' tutti contro Palmisano, adesso c'era PSP Go e Nintendo DSi, LL, poi c'era Forza 3 tra Palmisano e Iodice, poi c'era l'usato tra te e Palmisano, è simpatica questa, cioè tutte queste modifiche sono nate perché per la concorrenza di altri podcast, e qua ce la tiriamo un attimo, o per puro caso, o me lo sono inventato io adesso? Guarda, veramente, no, non te lo sei assolutamente inventato, è assolutamente realistica come cosa. Allora, diciamo, molto capitato per coincidenza, nel senso che, vabbè, noi abbiamo questo grosso pro, che è anche il nostro più grande contro, il fatto che ci conosciamo, lavoriamo insieme veramente ormai da una vita, e quindi un po' troppo rischiamo di essere, come dire, praticamente soltanto quelli che ci seguono da tanto tempo riescono a capire spesso quello che sottintendiamo e così via. Nel caso di Palmisano, diciamo che lui è da sempre molto bastian contrario, magari certe volte viene più fuori e certe altre volte meno, ma anche è una bestia da fiera, come mi diverto a dire io, perché veramente lui, quando vai con lui alle 3 piuttosto che Gamescom, è veramente un 99% è merda, guarda che gioco di merda, gioco di merda, poi veramente una volta ogni secolo imbrocca uno e diventa il capolavoro dell'esistenza, e questo lo fa per tutto, in particolare con la PSP. Lui con la PSP, guardate, perché noi appunto prepariamo come voi la scaletta settimanale degli argomenti da discutere, cioè lui infila sempre qualche cosa che vada contro la PSP, che sembra essere quasi diventata proprio una sua volontà di smantellare questa console portatile, e quindi ultimamente calchiamo un po' la mano, ci divertiamo a forzare, a andargli contro, perché c'ha sempre sta tiritera della PSP Go che è una merda, il DSi invece è meglio, che appunto l'usato è assolutamente, andrebbe fatto in un certo modo, tutto, e così via, e quindi ci ammazziamo a andargli un po' tutti contro, perché tendenzialmente Parmisano, se lo conosci, è difficile che gli dai ragione, nel senso che è talmente integralista che comunque anche quando gli sei un po' d'accordo con lui, tende sempre ad avere una visione talmente troppo forte che fai fatica poi a dargli ragione fino alla fine. Beh, sulla PSP Go a gioco facile però. Lì è dato, sì. Però poi lui porta, cioè, come dire, corrompere è una parola eccessiva, però non si può influenzare in nessun modo. Per lui si è merda e si morirà a merda. Veramente è difficile che cambi idea su qualche cosa, tranne i casi appunto rarissimi. Adesso è uscita, probabilmente ne parleremo anche nei prossimi podcast, è uscita la questione di Borderlands, che l'ha scoperto dopo che ne ha detto per 3 anni che era il gioco più di merda che l'umanità avesse concepito. Sperava nella morte di Randy Pitchford, di tutto quanto quello che lui avesse creato, invece poi alla fine l'ha scoperto e adesso è diventato il suo gioco dell'esistenza e si sta mettendo in ginocchio in proposito. Quindi diciamo è più una coincidenza che sono venuti fuori tutti gli argomenti in cui lui è l'unico che è d'accordo, cioè che porta il PSP con una merda, allora poi alla fine ci andiamo tutti contro. Però il PSP è veramente stato un caso limite, infatti ultimamente neanche ne parliamo più perché ci ha veramente stufato. Ma lui lo sa bene, diciamo, questa cosa qui. Dicevo prima, siamo un po' troppo autoreferenziali, che molti ce lo dicono, ma che cosa volevate dire, ma cos'è che non avete detto e così via, perché tendiamo un po' troppo a parlare soltanto fra di noi, diciamo. Mi sembra anche normale, visto. È un po', c'è questa deriva. Sì. Bene, Andrea, tu avevi... Sì, non è proprio una domanda, è più una sega mentale che mi sono fatto dopo aver ascoltato, credo, uno degli ultimi podcast appunto di multiplayer, in cui, se non sbaglio perché ve l'aveva chiesto un lettore, avete detto, questa cosa che comunque si dice spesso ultimamente, che la qualità media dei giochi ultimamente è molto alta, non c'è più, a parte qualche eccezione, il gioco orrendo, e questo poi è il motivo per cui i voti tendono tutti verso l'alto. C'era un po' questo concetto, diciamo, semplificando. Pensavo, è sicuramente un discorso ampio e su cui bisognerebbe ragionare un po', però non è che magari il problema è che bisogna riadattare un po' la scala di voti, il metro di giudizio con cui si guarda i videogiochi, perché se è vero che sono tutti realizzati così bene, diciamo delle cose base, non so, il motore grafico, gli elementi di gameplay, quelli fondamentali, forse non sarebbero neanche più da considerare come lati positivi, ma semplicemente come una cosa che c'è, che ce l'hanno tutti, e spostare su un altro livello il giudizio, così magari poi effettivamente si riabbasserebbe un po' la media voto e si giudicherebbero più cose tipo l'aspetto artistico, narrativo, le idee di gameplay. A me viene, poi chiudo e ti lascio rispondere, a me viene in mente come esempio, che non c'entra niente con i videogiochi, X-Files, che quando è uscito, al di là del fatto che era innovativo, cioè aveva temi diversi dal solito e tutto, la cosa fortissima secondo me è che aveva dei valori di produzione fortissimi, altissimi, fuori scala per tutto quello che veniva fatto all'epoca in televisione. Adesso tutti i telefilm sono così, e quindi è una cosa che è scontata e non lo si può più considerare una qualità di un telefilm, il fatto che è prodotto bene, ad alto livello. E forse sta succedendo un po' questo anche nei videogiochi, e non si riesce a girarci attorno a livello di critica e di valutazioni. Mi ci metto in mezzo anch'io, ovviamente, in questa cosa. Sì, infatti sicuramente pure tu sai bene che in partenza tutto il discorso dei voti, almeno per quanto ne penso in primis, cioè combattiamo noi stessi all'interno sul discorso dei voti, cioè è difficile in ogni caso dare una scala di valutazione, perché comunque quando appunto devi mettere il 9, l'8,5, l'8.9, il 9.1, cioè tutta quella serie di valori che veramente sono criticissimi di andare a giudicare. Allora, spezzando in due la tua domanda, che è di una complessità disarmante, nel senso si potrebbero fare 6 podcast. Lo so. Dice una cosa giustissima proprio, sono perfettamente d'accordo. Diciamo che la componente, per quanto riguarda la componente dei giochi che sono migliorati, ne siamo abbastanza convinti appunto quest'ultima generazione, cioè io sono molto d'accordo con quello che diceva Iodice, quest'ultima generazione effettivamente si è alzata il livello qualitativo, perché essendosi allungati i tempi di sviluppo, investimenti eccetera eccetera, difficile viene portato a termine un gioco mediocre, di solito viene cancellato prima, e questo è un buono, una cosa buona. Per quanto riguarda effettivamente, che allo stesso tempo porta ad un appiattimento di quello che sono le valutazioni minime perché un gioco sia effettivamente giocabile, ha giustamente quella controindicazione, dici te, che è difficile che oggi un gioco medio sia inferiore all'8, mentre un giorno, una volta, ma neanche tanto tempo fa, veramente 4 anni fa, un gioco medio era capace che era un 6, perché comunque era sempre sul limite della sufficienza. Oggi la sufficienza si è alzata parecchio. Però andare a riposizionare la scala, cioè veramente, come fai? Nel senso che fai, no, allora... sì, ma non è neanche probabilmente una questione di riposizione, è proprio cambiare la forma mentis con cui approcci la valutazione. Allora, diciamo che l'ideale sarebbe effettivamente che magari nei prossimi 1, 2, 3 anni, magari addirittura con la prossima generazione, diventi veramente, come dice, talmente implicito il fatto che tutti i giochi comunque graficamente devono essere belli, avere un ottimo audio, diventa talmente implicito che si sposta come nella valutazione dei film, perché comunque io mi ricordo anche i primi DVD in cui si valutava in modo estremo la qualità video, cioè di tutti quei confronti a dire, oggi sono pochissime le testate che fanno ancora quel discorso, neanche addirittura col Blu-ray è stato affrontato in modo troppo eccessivo quel discorso proprio puramente tecnico. Mi auguro magari fra 3 anni non ci sia più un discorso, il motore lì, la texture eccetera eccetera, perché è talmente implicito che sono tutti fatti a un certo livello, che si sposti totalmente sulla narrazione, su quello che effettivamente è, sia il gameplay sia la storia. Allora diventi quello l'ago della bilancia da farti dire, allora il gioco c'ha una bella storia, il gioco ha una brutta storia, ha un gameplay fresco, ha un gameplay ormai orribile, e dai per scontato tutto quello che è il discorso tecnico, perché non c'è più confronto, perché si è arrivati a un certo livello, perché ormai si è pareggiato. Però cioè, non è una cosa facile. No, no, assolutamente. Oggi purtroppo lo devi prendere in considerazione, perché ancora si vedono le differenze, sì. È indubbio, lo vedi a livello tecnico, ci sono differenze tra, addirittura tra i prodotti quelli un po' più indipendenti, possiamo dire. Io, guarda, io per primo, tra l'altro, per chi legge ogni tanto qualcuno dei miei rari scritti, io sono uno che per primo si concentra in modo, come dire, ricerco molto di più il lato narrativo a livello poi di giocabilità, nel senso mi piace che il gioco mi coinvolga, anche se sono un purista, venendo da un mondo prettamente PC, sono un purista dell'aspetto tecnico, mi piace il frame rate, mi piace l'anti-aliasing, eccetera, eccetera. Però per primo sono uno che adora la storia quando viene narrata e passa in tutti i modi sopra l'aspetto grafico, se è mediocre, possiamo dire. Però probabilmente sì, un po' tutti ci dovremmo fare da questo punto di vista una sorta di esame di coscienza e dire, vabbè, tanto il gioco ormai più o meno sono tutti quelli, allora gli shooter in terza persona in un certo modo con un certo motore, quelli FPS idem, gli RPG uguale, concentriamoci maggiormente sull'aspetto narrativo e sull'aspetto di gameplay. Sono d'accordissimo con te, però secondo me c'è ancora un pubblico, c'è ancora soprattutto una certa differenza fra i titoli più importanti e quelli meno importanti, che ancora giustifichi, che ancora giustifica, anzi, una concentrazione su anche l'aspetto puramente tecnico. È un casino che ci si potrebbe appunto analizzarlo molto più in termini più lunghi. Appunto, sì, io dicevo, non è un problema di utenza pure. Cioè l'utenza proprio che cerca, che vuole appunto il giudizio sulla grafica, su, quindi bisognerebbe educare pure l'utenza. Esatto, dici benissimo, perché sono sempre a te, Andrea, il discorso anche del noi ce ne siamo accorti da pochissimo, effettivamente inseguendo anche altri concorrenti, abbiamo iniziato a fare 2 o 3 prove con i confronti, queste cose orribili tecniche in cui quelli tra PS3 e 360. Madonna mia. Cioè, ma tu io li trovo, tra l'altro, purtroppo partoriti dalla mia mente, ho detto, cioè seguiamo qualcuno, cerchiamo di farli anche noi, per cui vabbè, tralascio tutto il discorso per l'acquisizione eccetera eccetera. Cioè, li pubblichi, è vero che sono uno sbattimento, un vomito, veramente ti fanno passare la voglia di giocare, però vai a vedere i commenti, le visioni, cioè sono l'unica cosa che ancora oggi su internet pubblico la roba e te lo mettono in embed a altri siti, te ne parlano, hai decine di commenti e ti fanno dire, ma cazzo, io faccio il provato di Heavy Rain, sì, in cui cerco di buttare fuori l'anima del gioco e faccio X, poi faccio una minchiata e qui non dico neanche A, ma metto in confronto Assassin's Creed 360 e PS3 e faccio X alla quinta, dico, però porca troia, cioè, con questa utenza come puoi mai immaginarti di fare qualcosa di un po' più evoluto? No, infatti, ti trovi miliardi di commenti sulla lama che è più dettagliata qui, sì, effettivamente è un po' più... Quello è vero, però io per esempio ogni tanto, quando voglio comprare un gioco, dato che io sia 360 che PS3, visto che mi costa 64 euro, almeno avere la versione proprio migliore in assoluto, che poi magari... Sì, vabbè, ma dai, non è... Quanto ti serve? Come? Cioè, ma quanto ti serve avere che la texture è... No, ma non è un piacere tecnico per dire, ah, che figo, però visto che devo cacciare un sacco di soldi, almeno avere il massimo. Cioè, è che se paghi 70 euro e poi scopri che è la versione peggiore, ti senti stronzo. Cioè, tipo, prendi Bayonetta. No, è più che altro, prendi casi eclatanti. Adesso non però toccati i limiti, Bayonetta. Cioè, per me è più importante con quale joypad ti trovi più comodo, ci credi? Quando prendo Shift. PS3 o 360, mi viene da dire sconsiglierei la versione PlayStation 3 perché ha quei grilletti di merda il padre PS3 ti fa passare la voglia di giocare un gioco di guida. Invece su un picchiaduro magari me lo compro per PS3 perché il joypad. Capito? Più quello secondo me è importante. Sì, è vero, però appunto anche magari Modern Warfare no, perché è esattamente uguale, però appunto Bayonetta o cos'era che è uscito Ghostbuster, che vabbè è un gioco, però minchia su PS3 era... In 2D. Mamma mia. Cioè, secondo me, a volte, dico a volte, anche il confronto ha il suo senso. Su casi limite, su casi limite sì, su altri no. Sì, tipo Assassin's Creed 2 è lo stesso gioco, impossibile dire che... Sì, vabbè, ma pure Modern Warfare, vabbè, ma ormai si è veramente tanto appiattita la differenza, per fortuna, la differenza dei multipiattaforma, veramente fai... No, secondo me non può essere un deterrente all'acquisto di una o dell'altra versione, cioè veramente devono essere identiche in tutto e per tutto, per il resto ora dicevo vabbè almeno ho una texture un po' più in alta risoluzione, però ho un frame rate stabile per dircelo, però, no dicevo per concludere la risposta dicevo Andrea che probabilmente ho centrato un decimo della domanda che aveva fatto lui, lo so, no, ma... è impossibile, lo sai, infatti sì, cioè, ci sarebbe da parlarne, ne parla la prima volta che ci becchiamo, ne parliamo per due giorni, questi professionisti. Gianluigi, qualche domanda per... Sì, una domanda personale più che altro. Addirittura. Sì. Dato per scontato che il gioco della tua vita è Last Remnant per PC, l'altro tuo gioco della vita qual è? Cazzo, che domandona. Proprio il singolo gioco della vita? Sì, proprio. Quello che ha segnato di più la tua vita, quello che ti ricordi... Vabbè, allora... che cazzo è difficile, proprio... Guarda, tre ne metto per una questione di infanzia. Uno, ragazzi. A parte che ti chiami Quakeman. Che però non è stato il mio gioco della vita, pensa Quakeman. Cioè, è uno che mi ha segnato una svolta. Guarda, probabilmente a livello però molto molto affettivo, il primo Monkey Island. Però perché ci leggo tantissimo anche un... diciamo un periodo proprio personale di scoperta, comunque dei primissimissimi tempi che addirittura lo giocai su PC addirittura, quindi tutta una serie di cose che ci stanno dietro, probabilmente più Monkey Island, però ci metto a pari merito, mi dispiace, mi rubo questo spazio, sicuramente Doom, perché Doom è il secondo proprio, io mi ricordo col cavo seriale con due PC quando si faceva col comando di linea il third setup per mettere la mappa, per mettere tutto. Mamma quanto mia. È stato veramente... E poi io ho adorato veramente tantissimo, anche se potrebbe non sembrare, il primo Zelda per NES. Io comprai il NES a suo tempo per Zelda con la mappa di carta che c'era dentro la confezione, non ricordo ancora, e lo giocai veramente allo sfinimento il primo Zelda per Nintendo proprio. Versione americana immagino. Versione, ma lo sai che non me lo ricordo se era addirittura versione americana, probabilmente sì, versione americana, anzi sicuramente, sì, al 100%, e ci ho giocato tantissimo. Sì, contento Gianluigi? Sì, molto. Ok, io ho solo un'ultima piccola domanda, dato che oggi leggevo appunto che Rage, visto che parliamo di Karma che Soci, che bomba, è passato da EA a Bethesda. Ma d'altronde, mi sembra Bethesda non ha comprato i software, scusa. Più che Bethesda, Zenimax, che è la società che controlla anche Bethesda, sì. Ecco, ma non c'entra, tu ci credi ancora in questo Rage o stiamo qua andando sul vaporware? No, allora io ci credo nel senso, non so se anche Andrea, anche te l'hai visto alle 3, Andrea? No, non sono andato io a vederlo. Io sono stato, l'ho visto a porte chiuse, tra l'altro ne avevo scritto, cioè, se leviamo le sezioni di guida, adesso sembra che io abbia una versione con le sezioni di guida negli FPS, visto che pure la flight di queste cose, se leviamo le sezioni di guida, che ovviamente non si capisce che c'entra, no, in questo momento, per quello che ho visto, sembra, anche se la sparo enorme, un Fallout 3 con la super grafica e un pochettino più colorato, diciamo fumettoso, cioè un po' più vicino a un Borderlands quasi, possiamo dire, quindi cioè, a livello potenziale potrebbe essere il capolavoro che manca di software dai tempi di Doom praticamente. Poi ho sentito, dicevo pure nel nostro podcast, quelli di, io sento spesso il podcast di Giant Bomb, che è quel sito, vabbè, con l'ex di GameSpot Jeff Gutzman, che dicono un mucchio di cazzate, però sembra che gli americani lo attendano veramente come il messia questo Rage, che veramente non me lo so spiegare, cioè loro lo considerano addirittura il gioco più atteso del prossimo anno, che metterei tutto tranne Rage nella mia vita, non per la persona, perché veramente si è visto pochissimo, rischia sul serio di essere vaporware, loro ci credono tantissimo, tra l'altro ne approfitto di questo tempo, veramente goliardi, per fare un piccolo aneddoto proprio della presentazione a porte chiuse di Rage, e c'era dentro, mi sembra Tim Willits, che è il tizio pelato come me praticamente, è un po' bassino, che entra tutto gasato, perché poi figurati roba di software, io appunto sono anche un fanboy da quel punto di vista, quindi entro per primo, c'era stato tutto un iter incredibile per vedere quel cazzo di gioco, entro, vado per dargli la mano, perché tra l'altro lui l'ha già anche intervistato, e lui mi risponde avvelenatissimo serio in americano: no, io non stringo le mani. Simpaticissimo. Ma, capito, un giornalista che entra pure tutto gasato, faccio e lui no, io non stringo le mani. Poi la scena orribile di queste porte chiuse in cui ci entri in sei, per cui mi sono anche, dopo che ha detto questa scena io sono rimasto pietrificato, mi sono dovuto sedere davanti a lui, quindi la sua la doppia cura di averselo di fronte a un millimetro dopo che ti ha detto questa cosa che è veramente da sparargli. No, comunque, cioè, c'è da dire una cosa su Rage che, allora, a me, premetto che di Rage non me ne frega niente, ma bisogna dire che rispetto a praticamente qualsiasi cosa esca l'anno prossimo, non è un seguito e non è un clone di Devil May Cry. Esattamente, sì. Giustissimo. Quindi, insomma, può essere veramente una... magari tipo veramente, non dire uno Sleeper Hits, perché con Indie Soft non si può parlare mai di Sleeper Hits, questa pubblicità che ne faranno, però veramente qualcosa tipo Borderlands, che magari nessuno si aspetta chissà che rivoluzione, tutti ci aspettiamo sto shooter in prima persona, senza storia, senza meccaniche di gioco particolari, classico Indie Soft, e magari salta fuori un bel RPG con una bella trama, con una super grafica, comunque graficamente è incredibile, quando l'ho visto girare su un PC lì di fronte, comunque è bello graficamente, e magari insomma può venirne qua fuori qualche cosa di innovativo e stragiocabile, già sarebbe un bel successo, perché insomma di software ultimamente non è che fra Quake 4, Wolfenstein e compagnia, vabbè Wolfenstein non hanno fatto loro, se non altro, però vabbè. Vabbè, comunque l'ID Software che tira fuori una nuova, un nuovo IP non è da poco. Assolutamente, no, la bomba, come hai detto te, è Electronic Arts che ha venduto, cioè si sono messi d'accordo con Zenimax, cioè comunque è un bel cambio. A questo punto vediamo cosa succederà con Doom 4, che teoricamente Activision se lo tiene come il pane, comunque Doom vende in America, anche se fa fare dal terzo praticamente. Ma secondo te è perché, cioè nel senso, fa un po' strano che Electronic Arts lo venda, sì. Sembra quasi, non lo so, il Barcellona che vende Rivaldo. No, no, è vero. Vecchio e morto. Guarda, allora, fra molto quello diciamo così appunto nel podcast, molto da insider, a quanto pare sembrerebbe perché l'anno prossimo Electronic Arts, ci dobbiamo ricordare tutti bene che dovrebbe poi uscire entro fine anno, a quanto pare, Medal of Honor e Crisis 2, sembra essere confermato, e dicono nello stesso identico time frame, come dicono, insomma, stessa identica cornice temporale, piazzare anche Rage, rischiano di fare come con Dragon Age quest'anno, cioè che l'hanno schiacciato fra Shift e FIFA 10 e hanno ucciso praticamente a livello marketing un gioco che per me è 10 volte Shift e 10 volte FIFA, ovviamente per giocare, esatto, giocatore dei giochi loro. Dicono magari avere un brand potentissimo in Rage e doverlo mettere in mezzo a Crisis 2 e a Medal of Honor, a sto punto ce lo vendiamo, ci facciamo un po' di soldi adesso e poi sono cazzi di Bethesda quando lei deve farci concorrenza a tutti e due. Non è sbagliato come punto di vista. No. Però certo, comunque è un signor gioco, fa strano pensare che facciano questa compravendita così tranquilla all'ultimo secondo, senza tante fanfare, perché poi Zenimax col micro comunicato stampa, abbiamo preso i diritti di Rage, punto. Come Lanzani, Codori, un caffè. Esatto. Pensa se l'aveva preso Atari, che stava fuori, cioè, facevano un press tour per annunciare il fatto che avevano preso Rage. Basta che non lo prenda Ubisoft, che poi ti dà il finale al pagamento. Vabbè, comunque, allora, io direi che possiamo chiudere qua il question time con Pierpaolo, e adesso passiamo alle news del giorno. Welcome back to the stage of history. Sabato scorso, ovvero il 12 dicembre, oggi il 15, giusto per contestualizzare la giornata, ci sono stati i Video Games Award di Spike TV, che è una bellissima, insomma, è un bellissimo sito televisione online dove danno le cose più assurde. Tra parentesi vorrei segnalare le ragazze che giocano con il Wii in bikini. Comunque ci sono stati i Video Games Award dove non solo hanno dato i premi per i migliori videogiochi del 2009, ma hanno anche fatto vedere dei teaser e dei trailer di titoli altamente attesi per l'anno prossimo. Tra i giochi che hanno fatto vedere come presentazioni proprio microscopiche ci sono stati Halo Reach, Medal of Honor, poi Green Day Rock Band e mi pare Crackdown 2. Scusami, ti interrompo un secondo soltanto perché cazzo quanto è bello sentirti parlare e tutto il religioso silenzio. Cioè, veramente è un'esperienza mai provata proprio. Vabbè, che ci facciamo i cazzi nostri mentre parlo. Vado in bagno. Veramente è fantastica come cosa. È un falso rispetto che abbiamo. Esatto. No, mi dà quasi paura a parlare, a provare a dire qualcosa. Ma li pago per star zitti. Buttami, comunque, voi avete visto qualcosa o l'ho visto solo io questi micro trailer, teaser? Io ho visto quello di Halo Reach. Allora ci è ambientato nel passato, giusto? È ambientato nella guerra che c'è stata prima del primo Halo. È stato interessante questo fatto che nel passato la grafica era bella. è come Star Wars episodio. Esatto, è la stessa cosa. Star Trek, aspetta a parlare, aspetta a parlare di vedere qualcosa in game prima. Anche tu c'hai ragione, in effetti. È un molto finto in game, come hanno voluto. Però hanno detto che era il motore grafico. Sì, sì, in una sequenza di interattiva che sappiamo tutti che nelle cutscene il motore grafico casualmente ha 10 effetti in più rispetto a quanto giochi. O come la pubblicità di Gears of War del primo, che esatto, era la stessa grafica del gioco, ma n.000 volte più fighe. Esatto. No, cosa ti è parso, Andrea, di Halo Reach? Insomma, vabbè, che vuoi che mi parli? Cioè, no, ma... A me ha fatto ingrifare, devo essere. Io sono un fan di Halo, lo so. Mi è sembrato un po' più carino, proprio al di là del fatto che non sarà la grafica del gioco, però anche stilisticamente ci ho visto qualche cosina che mi è piaciuto. Come ben sai, a me Halo non è che faccia proprio impazzire, soprattutto come grafica. Però al di là di quello, cosa vuoi dire da quel trailer? Che ci sono tanti, tanti piccoli Master Chief tutti sì, assieme. Guerra totale, sì. E invece a me è piaciuto molto, anche se è un clone spudorato ormai, si accoppiano da soli di Call of Duty, il Medal of Honor nuovo, che cioè, è bellissimo, è Infinity Ward, una volta ha creato Medal of Honor, poi è passata a fare Call of Duty, adesso c'è Electronic Arts che li copia facendo Medal of Honor ambientato ai giorni nostri. Fantastico, i soldi sono... Non lo so, a me sicuramente ci ha dato più Medal of Honor che Halo Reach, perché come Andrea non sono questo grosso fan di Halo, purtroppo anche lì non è proprio il massimo, anche se sicuramente è bella... Cioè, complimenti tanto di cappello a Bungie, a Connor, chi cazzo ci sta dietro i 500 là, come si chiamano, eccetera, eccetera, per quelli che sono riusciti a costruire nel tempo, che erano partiti veramente da una caccoletta, hanno fatto un universo comunque credibile, bisogna dargli riconoscimento, quello assolutamente si vuol dire nulla. Certo è che Medal of Honor, Medal of Honor il primo, quando erano usciti, era veramente una gran figata, se riuscissero a fare un concorrente degno di nota di Call of Duty, già veramente stanno a metà, anzi a tre quarti dell'opera. Poi quella scena finale vedono il tizio che sta per esplodere, lui lo lancia fuori, anche quello ovviamente non sarà mai in game reale, però è figa, una bella... Beh, è promettente che facciano fare il multiplayer a quelli di Battlefield. Esatto, beh, loro ce l'hanno dentro là, quindi ne approfitta. Sì, infatti. Gli va facile, gioco facile. Cioè, succede questa cosa incredibile che hanno della gente brava a fare qualcosa e gliela fanno fare. non è banale che accada questo. Non come Microsoft, che ultimamente smantella studi che sono bravi a fare le cose. Comunque, invece, poi hanno presentato anche Batman Arkham Asylum 2. E Gianluigi, lo aspetti questo gioco o il primo ti ha soddisfatto e basta? Dai, avendo modo il primo, sicuramente aspetto anche il secondo. Sto sperando che non vacchi. Sia uguale, no? Non annoiare i fan. Non riesco a pensare che altri personaggi possano metterci dentro, francamente. Beh, c'è due facce. Che gran personaggio, mamma mia. Dai, due facce. È un bel personaggio. Il pinguino, do. Pinguino. Non c'è nel primo, io non l'ho giocato. No, non c'è. No. Non c'è neanche tipo come accenno. Ma forse sì, c'è citato, però non c'è proprio lui. Ho capito. Boh, e invece poi appunto hanno... Oh, Catwoman. Catwoman. Una bella fottina di latex. E invece poi hanno dato i Video Games Awards, appunto i premi, e gli Uncharted Awards. Gli Uncharted, beh, d'altronde, ecco, siete d'accordo con il gioco dell'anno Uncharted 2? Certo. Beh, su di te non avevo dubbi. Pierpaolo? Sì, posso dire, allora, te lo dico, io personalmente Dragon Age, però sicuramente quando li vai a confrontare Uncharted 2, cioè è un gioco, lo fai vedere veramente, lo faccio vedere a mio zio e si entusiasma e non riesce a capacitarsi del fatto che sia un videogioco, gli faccio vedere Dragon Age probabilmente dopo un secondo vomita e dice dov'è la Gazzetta dello Sport, probabilmente naturalmente mi sembra scontato. Sì, è vero, la prova parenti che non capisco una mazza di videogiochi l'ho fatta anch'io, effettivamente Uncharted 2 spacca anche su di loro. Sì. Uncharted 2 fai mettere seduta la ragazza accanto a te, lo zio, il parente, il padre, e guarda, metti qualcuno accanto a te mentre giochi a Dragon Age. E muore di sonno. L'ideale sarebbe che giochi a Dragon Age, metti la ragazza seduta di fianco e lei non guarda, fa. Come in Codice Swordfish. Vabbè, buonanotte al secchio. Invece, notavo che stranamente il miglior gioco per Xbox, secondo me stranamente perché è un brand forte, ma non pensavo così forte su 360, ha vinto Left 4 Dead 2. L'America. L'America dici? Sì, Left 4 Dead in America è fortissimo, guarda che Left 4 Dead in America è... cioè non sembra, ma se pensi a quella petizione di quanti erano? 300.000, 400.000 persone, cioè in America Left 4 Dead è diventato quasi un, come dire, proprio un'icona, bene o male, del, come fu Portal a suo tempo, bene o male in America fu proprio un'icona, cioè segnò un punto di svolta. Lo stesso è per Left 4 Dead. Io non avrei mai messo il gioco dell'anno Left 4 Dead 2 360, con tutto che è bellissimo, eh. Beh, però se conti, guarda, che non è che sia uscito per 360 in esclusiva, non è che sia uscito proprio sto ben di Dio, cioè, eh. C'è Forza e Halo, minchia, li ho giocati tutti e due questo mese. Vabbè, non sei obbligato a mettere per forza però un gioco esclusivo solo per 360, eh. Poi anche metto un multipiattaforma che ti è piaciuto tanto e che è uscito 360, ah, eh. È vero, cioè, non certo. Penso che lì loro si sono messi a fare, ah, per forza gioco 360. Sì, poi più che altro se proprio vuoi metterlo come gioco dell'anno Xbox, magari più il primo quando è uscito l'anno scorso, il 2 dopo un anno, non so. Sì, però per quello, sì. No, però per esempio le nomination per il miglior gioco PS3 erano tutte esclusive, Infamous, Killzone 2, Ratchet & Clank e Uncharted. Allora magari era quello il criterio. Allora forse sia giochi esclusivi. No, no, perché 360 c'è come nomination c'è Batman. Che... Vabbè, ma allora sono dei cretini, scusa. perché comunque, beh, però per esempio pure Ratchet & Clank, cioè comunque è uno di quei brand che in America tira tantissimo, comunque, anche se, cioè, penso anche Batman in effetti tiri parecchio in America. Esatto. Per cui io Left 4 Dead, cioè diciamo è quello che abbiamo commentato un po' tutti, perché abbiamo sfottuto Umbertino, che è lui, grandissimo fan di Left 4 Dead da sempre, ci siamo materializzati quando abbiamo visto vincitore 360 Left 4 Dead 2, l'abbiamo tutti chiamato a sorte per complimentarci con la sua scelta, praticamente. Beh, lui mi sembra uno strafan di Valve in generale. Sì, so. Sì, in generale, sì, sì, sì, assolutamente. Ma una cosa che, potrei stare per dire una minchiata, al limite la cancelli, sono andato a vedere velocemente sul sito le premiazioni e fra i commenti sottolineavano, se non sbaglio, il fatto che Uncharted 2 non ha vinto nella sua categoria, però è il gioco dell'anno. No, ha vinto Uncharted 2. No, è il gioco dell'anno, loro, è proprio il gioco... Cioè, è il gioco dell'anno, ma nella sua categoria, tipo, forse ha vinto Assassin's Creed, non lo so. Ah, sì, è vero, mi sa negli adventure, negli action adventure, esatto. È vero, non ha vinto... Dice, ma come cioè, non è il migliore del suo genere, però è il gioco dell'anno. Sì, ha vinto Assassin's Creed 2, è vero, sì, sì. Vabbè, sì. Ragazzi, mi sa che là dietro le girano di soldi, Vabbè, ma non è... Ma non è per forza detto che così, dico, in quella categoria è magari migliore, ma in generale è migliore in certe due. Vabbè, ho capito. Beh, però secondo la sua categoria, cioè, attento, lo divete per forza la sua categoria. Cioè, se è migliore di Assassin's Creed in generale, lo è anche nella sua categoria, dai, insomma, cioè, mi aspetto che il gioco dell'anno se lo giochino i migliori nelle varie categorie, poi magari... Che poi, curiosamente, ci sono anche dei premi. Tipo Best Performance by a Human Female, che ovviamente è stato dato a Megan Fox. Ma lì tutti a dire che non è vero, ci sono doppiatori sconosciuti che si sono comprati meglio, ma perché non hanno capito? Cioè lì non è che c'è scritto quella che ha fatto il doppiaggio migliore. Best Performance by a Human Female, cioè, vai a sapere cosa stanno facendo. Mentre si stava. Mio Dio. E poi invece vedo che il miglior gioco per PC effettivamente Dragon Age Origins, che ha vinto giustamente, secondo me è un giocone. Non ci si può dire nulla, sì, veramente. Purtroppo credo sia uno, credo probabilmente, come ho mezzo scritto anche nella recensione, che sia l'ultimo esponente di quel genere di quel tipo di RPG, scusate, gioco di ruolo con quel tipo di profondità, perché secondo me faticano ad avere un appeal per il grande pubblico come può avere un Uncharted 2, e quindi non so se BioWare con il seguito si spinga a fare veramente un titolo così profondo. Veramente è un gioco che se fosse uscito al posto di Neverwinter Nights 2 o qualsiasi cosa, insomma 4-5 anni fa, cioè, ancora oggi ci stavamo giocando, perché veramente non ha concorrenti passati e probabilmente non avrà più concorrenti futuri per mancanza proprio di concorrenti. Eh sì, è un titolo alquanto fuori dal coro ultimamente. Infatti io che sono, non ho giocato Dragon Age, però sono un po' vecchietto anch'io, anche se meno di voi altri, per carità, e sì, giocando a Mass Effect, che mi piace un sacco, però mi sembra che manchi qualcosa, perché non è come i GDR che giocavo 10 anni fa. Ma Mass Effect piace a gente come me anche. No, a me è piaciuto molto. È fantastico e tutto, ma è action e va bene. Però mi manca quella profondità che avevano, non so, i Fallout, i Baldur's Gate e via dicendo. Sì, sì, sì, è verissimo, verissimo. Ma ormai hanno preso tutti quella deriva, diciamo, Risen, lo stesso futuro The Witcher e compagnia bella, un po' più... Fallout, un po' più da action, però dove action, cioè, che si appoggia anche ad una diminuzione proprio di complessità e di profondità della parte ruolistica, bene o male. Invece Dragon Age proprio è tutto all'opposto, non è integrale a tutti gli effetti, non ha tolto nulla dagli RPG, anzi ha complicato, cioè, tutto il sistema delle tattiche che è fuori di testa, è qualcosa veramente per ultra puristi. Cioè, lì quando fai il sistema di tattiche che decidi il personaggio X deve fare l'azione Y nel caso in cui si verifichi la condizione tipo quello che diminuisce troppa intelligenza, troppa energia, oppure viene attaccato da una classe che Madonna. Fa allora no, una cosa incredibile, cioè per me è veramente la fine del mondo. Però appunto mi chiedo oggi chi diavolo è che su console, su 360 e PlayStation 3 apprezza quella parte lì. Ma come data di vendita com'è più o meno? Cioè, ci sono già dei grandi Dragon Age oppure? Sì, usciti. Comunque è andato bene, non è andato male. Io non penso che si aspettavano dei numeri stratosferici, secondo me. È andato abbastanza bene. Alla fine, come vendite, ovviamente è andato benissimo su PC, un po' meno su PS60. Però comunque è andato bene alla fine. Specie se lo confrontiamo con, appunto, che c'è di concorrenza. Risen, non ne parliamo. Dai. Fallout 3 che comunque alla fine non è che abbia venduto tantissimo, purtroppo Fallout 3, però si va a vedere proprio i numeri. Ah, credi. No, pensavo invece avesse venduto tantissimo. Cioè, considerato quello che è stato Fallout 3, avrebbe dovuto vendere probabilmente un per 10. Sì, è vero, è vero. È vero, e chiuderei questo discorso sui VGA con il gioco più atteso dell'anno prossimo, che tra le nomination c'erano Bioshock 2, God of War 3, Mass Effect 2 e Starcraft 2, ha vinto il Dio della Guerra. Tre. Sono americani. Beh no, ammetto che tra questi anch'io. No, gli do perfettamente ragione. Per carità, però obiettivamente un gioco in cui c'è lo spartano pelato che parla come uno del ghetto e mena le divinità, è ovvio che gli americani come manca solo non che si fuori la pistola e si mette a sparare. E non si è mai capito se è nero poi, no? C'è sempre quella mitologia che è nero pistato. Il doppiatore secondo me lo è palesemente, poi non so se... Mai no, capito secondo me non è nero, è abbronzato, però con la polvere sopra della cenere della moglie e del figlio. Per me ormai è diventato, quando ho visto quella scena stavo piangendo, vabbè. Comunque, invece, dato che momenti di dramma in familiare, invece, dato che questa è l'ultima puntata del podcast prima di Natale, diamo i nostri il nostro tentacolo d'oro e insomma, dite la vostra delusione e i primi tre giochi dell'anno che vi vengono in testa. Okay. Allora, più belli in assoluto, Uncharted 2. Ok, mi sembra pure logico. Il secondo se lo prende Batman. Terzo, Killzone 2. Per me, certo, ovviamente. Delusione, dai, forse Resident Evil 5, perché è sempre la stessa cosa. Con i movimenti, sì, esatto, con i movimenti, proprio, lasciamo stare. Il prossimo. 10 anni ancora non ha imparato a muoversi. No, infatti, avranno problemi a farli muovere, non so. Bene, mentre gli altri pensano dico i miei. Allora, parto la delusione dell'anno, che è stato ahimè Halo DST, che veramente mi ha fatto latte alle ginocchia. Cagare si dice. Bravo. Ha fatto cagare latte dalle ginocchia. È una scena raccapricciata. Terrificante. Ma anche perché avessero fatto tutto il gioco come sono gli ultimi 10 minuti, sarebbe stata una figata, ma hanno voluto fare sta cosa, come dire, con i flashback, multipersonaggio, veramente, due coglioni così. E poi non ho capito come mi sono dovuto ricomprare tutto Halo 3 multiplayer, vabbè, comunque. E invece le tre cose, perché uno non è un gioco, devo dire che al terzo posto metto Vid Zone per PlayStation 3, perché io pensavo fosse una cazzata, invece l'ho usato un sacco di volte per vedermi video. A me non funziona. Perché, come non, ti non lo so, non lo so, mi dà errore, non so che cazzo è successo. Allora, a me funziona perfettamente. Poi al secondo posto metto Killzone 2 e al primo Uncharted 2. E ammetto che è molto PlayStation 3 come... Appena proprio. Ma leggermente. Pur di non mettere un gioco di un'altra piattaforma, hai messo Vidzone fra le canzoni più belle dell'anno. No, aspetta, io ho sia il 360 che la PlayStation 3, però veramente su 360... Tipo... il gioco più brutto per 360, però Vidzone fra i giochi. Beh, posso dire che Forza 3, ma Forza 3 è stata un'altra delusione, quindi non posso dire. Addirittura delusione? Beh, non mi ha proprio... Cioè, lo trovo... La parte online fighissima e la parte single player è proprio la noia mortale, cioè non hai sfida, non hai mai sfida, a parte che è facile, però non hai proprio sfida, quando hai un attimo di problema, PG Select, torni indietro nel tempo, insomma la trovo, hanno fatto un gioco un po' troppo per tutti, veramente, speravo in qualcosa un po' più bastardo. Dunque, allora, delusione, mi unisco a Gianluigi, Resident Evil 5, oddio, poi non è neanche troppo delusione perché un po' no, me l'aspettavo. No, ma neanch'io, però dico... Però, se devo dire un gioco ad alto profilo fra quelli che ho giocato che non mi ha fatto impazzire, dico quello. Perché poi c'è il problema che io molta roba non l'ho giocata, tipo Uncharted 2, per esempio, il gioco dell'anno, io non l'ho giocato. Però hai giocato Mario Wii. Fammici arrivare. Scusa, sorry, non volevo... Boh, mi dimenticherò sicuramente qualcosa. Però se devo dire i tre giochi che mi vengono in mente così a botta, uno è Left 4 Dead 2, perché anch'io, come Umbertino, sono un grande fan. Uno è sicuramente Arkham Asylum, anche perché quello invece è stata una sorpresa, una bella sorpresa, diciamo. E poi sì, Mario. Sì, Mario. Clamorosa sorpresa, perché io ero il primo a dire che sì, vabbè, non ci gioco, mi ci diverto, però sarà una minchiatina, invece mi è piaciuto assai proprio. Bellissimo. Parte un po' male, secondo me, i primi due mondi non sono all'altezza del resto, però poi è veramente... Chiaramente se ti piace quel tipo di gioco lì è veramente spettacolare ed è bello impegnativo al contrario di quello per DS. Soprattutto se vuoi trovare le monetine, le cosette, ci ho tirato una quantità di bestemmie devastante. Ammetto, scusa, riprendo un attimo, ammetto che io l'ho comprato solo l'altra settimana dopo aver sentito peraltro il podcast di Multiplayer e Borderlands. Forse avessi avuto più tempo per giocarci l'avrei messo al posto di Vidzon, però... Però ha toccato più Vidzon. Sicuramente. E vabbè, io due le ho detti, ovviamente Uncharted 2 e Dragon Age, assolutamente giochi l'anno. Il terzo posto probabilmente o Borderlands. Io comunque, anche se vado veramente controcorrente, essendo a metà come amante dei giochi di guida, a me sono piaciuti moltissimo sia Shift che Dirt 2. Ho trovato due titoli, ovviamente per visioni differenti del gioco di guida, però due molto molto divertenti come titoli di guida. Però no, mi sa Borderlands sicuramente metto al terzo posto. Comunque è una sorpresa, cioè veramente in cooperative, quando ci giochi, o su PC o su 360, per PlayStation 3, quando ci giochi effettivamente in cooperative, cazzo, guadagna proprio, ti fa proprio venire voglia di continuare a giocarci. Ha un po' di quella droga di Diablo, veramente sono riusciti a mettercela dentro, in un modo, con anche un po' di World of Warcraft, cioè, comunque merita. Ma delusione, guarda, giusto per rompere un po' il cazzo Andrea, ci infilo New Super Mario Bros. Wii, invece. Pensavo Left 4 Dead 2. No, assolutamente no, quello no, vabbè, è bellissimo anche Left 4 Dead 2, ci mancherebbe. No, New Super Mario Bros. Wii, semplicemente perché non ho altri titoli da mettere, è uno degli ultimi giochi che ho giocato di recente, giù in sala video per registrarlo. Vabbè, scherzi a parte, ho giocato poco, massimo avrò fatto 3-4 ore. E però veramente non mi dice proprio un cazzo, non ce la faccio proprio a trovarci dell'appeal, anzi forse lo trovo addirittura un ritorno al gioco frustrante di una volta, cioè il fatto che crepi per un salto sbagliato, quelle cose lì che un po' ultimamente mi comincia a dar fastidio, tanti che dicono che sono fatti troppo facili i giochi, probabilmente invecchiando mi piace che il gioco sia un po' più facile, forse anche quello ce lo metto in mezzo. Ma per poi dipende da gioco a gioco, sì. Perché per esempio Batman Arkham Asylum mi è piaciuto giocarlo ad hard, altri li metto a normal perché non ho voglia di andare in sbattimento. Dipende un po', per me dico, da quale gioco è. Anche poi pure in multiplayer, cioè aggiunge veramente zero. No, il multiplayer è tipo, è la minchiata per far vedere che si sono inventati una cosa nuova. Multiplayer è forse in due, se si è in due che ci si sa giocare bene, c'è un due po' competitivi, senso. Due proprio che si divertono a fare veramente il gioco come va fatto, ma se ci metti accanto... No, vabbè, lì è la cosa, la curiosità. Esatto. Quindi sì, lo metterei, guarda, mi piace essere provocatorio, lo metto fra le delusioni dell'anno. Altrimenti ci infilerei. Ah no, però è uscito Halo Wars, è uscito l'anno scorso all'inizio quest'anno. Allora rigorosamente Halo Wars. Ma poi sai, su Mario secondo me vale un po' quello che ho detto su Resident Evil, che può non piacerti, però secondo me un po' te lo aspettavi anche, dai, ammettilo. Uno di quelli che ha sempre parlato malino anche nelle fiere. Ma io sono sorpreso del fatto che mi sia piaciuto tanto, perché non me l'aspettavo sinceramente. Però io ho adorato quello per DS, a me è piaciuto tantissimo. Ma anche a me era piaciuto quello per DS, boh, si vede che proprio ti dà fastidio questo... Ma tra l'altro io, ripeto, i primi due mondi di questo qua, cioè all'inizio sto dicendo, vabbè, ma sta roba l'ho già giocata 3 anni fa, poi in realtà non so che cazzo è scattato e mi è diventato bellissimo. Dicono tanto che andando avanti diventa molto bello, gli ultimi tre mondi sono veramente... Gli ultimi tre mondi ci sono delle cose, però vabbè, se non ti prende, non ti prende. Infatti. Cioè, non ce l'ho fatta arrivare agli ultimi tre mondi. Comunque, quando si trovano giochi troppo difficili, prendi il MAME, ti fai 10 minuti a Ghost and Goblins e ti ricordi come era una volta al mondo. Sì, sono d'accordo. comunque inciso su Mario, è il secondo Mario di fila in cui dopo un'ora che giochi c'hai 70 vite. Mettete le vite infinite e fai basta, cioè, nel senso, qual è il problema a questo punto? Vabbè, è un gioco Wii, non dico che ti aspetti. Sì, vabbè, ma guarda che è un gioco Wii, però non per un pubblico Wii, cioè secondo me il pubblico veramente del Wii Fit, ci metti New Super Mario Bros, non sono così convinto che si divertano a morire 8 volte. È difficile, cioè trovi vite a raffica, ma comunque poi il gioco da affrontare è difficile, i singoli livelli, soprattutto andando avanti sono delle parti veramente bastarde, c'è il mondo supplementare, quello che sblocchi dopo che hai finito tutto, che è fatto apposta per farti bestemmiare. Vabbè, dico, a parte che se il pubblico di Wii Fit gli levi la balance board, incominciano a sbattere la testa nei muri, non riescono più a capire nulla. Bene, no, ci sono ben due lettori, ascoltatori anzi, che ci hanno dato le loro preferenze. Carlo Ferino ci dice solo che il suo miglior gioco è Uncharted 2, il peggiore è Modern Warfare 2, senza motivare la cosa. Grande. Invece, devo dire che, vabbè, forse è un po' eccessivo dire il peggiore perché è un gioco della Madonna, Modern Warfare 2, però qualche difetto di costruzione ce l'ha. E invece Francesco Fazzini ci manda una bella mail dove ci dice che il suo gioco dell'anno è Batman Arkham Asylum, che ha giocato abbastanza Street Fighter 4 e Resident Evil 5, però appunto si è ancora lì da giocare Left 4 Dead 2, Halo DST non lo giocare, Borderlands e magari DJ Hero. Però appunto, avesse avuto una PlayStation 3 probabilmente avrebbe detto anche lui Uncharted 2. Lui dice, si parla sempre dei migliori, ma dei peggiori secondo voi? Sia per quanto abbiano deluso l'attesa, sia per la bruttezza effettiva. Io poi vorrei dire su questa cosa che, come dicevamo prima, giochi veramente di merda ormai non ne fanno più. Quindi, a parte i giochi musicali Activision, quelli fanno veramente cagare. Però non permettono come delusione Wet, perché chi cazzo se lo aspettava? Esatto, esatto. O Rogue Warriors. Beh, è una delusione per chi l'ha fatto, perché mi sembravano convinti che fosse bello. Mia, scusate, Rogue Warrior è quello tipo Call of Duty che è uscito adesso, no? Sì, che hanno fatto questa accoppiata, sì, Bethesda, proprio Zenimax, ha detto, ah, facciamo la campagna qui, Wet e Rogue Warriors. Per esempio, cos'era ieri l'altro, accendo la TV e vedo la pubblicità in televisione di questo Rogue Warrior, no? Che mi sembra tipo Medal of Honor, cioè io avevo appena visto la locandina di Medal of Honor nuova, vedo questa cosa che ci assomiglia tantissimo, dicevo, ma che cazzo è? Vado a vedere GameSpot, mi pare gli abbia dato 2 o 4. Beh, anzi. E dicevo, ma però, che bel gioco di merda. Sì, io neanche mi sono accorto che stavo uscendo, per cui figurati. Ma neanch'io. Dicevi Pierpaolo, scusa? Tra l'altro dura tipo 2 ore, 2 ore e mezza di gameplay in single player, tipo una cosa del genere. Cioè, Modern Warfare 2 e che ne so, un gioco di ruolo e Fallout. Esatto. Bene, queste erano, come dire, le pareri dei nostri ascoltatori, che ci fanno tanto piacere se ci scrivono. E direi di andare avanti. Come secondo punto di questa simpatica discussione, mi è venuto in mente l'altro giorno, guardando la mia vecchia collezione di giochi, che ci sono alcuni giochi che non hanno mai avuto il sequel che io avrei voluto per loro. Due di questi giochi, nel mio caso, poi sentiamo anche voi, sono il mitico Zack McCracken and the Alien Mindbenders, non so se i più se lo ricordano, però un'avventura grafica della Lucas, che ahimè, veramente, abbiamo fatto un successone e non ha mai avuto un seguito, e invece un gioco che ha avuto dei seguiti, ma che non c'entrava un cazzo, e che mi sarebbe piaciuto, invece, un seguito che continuava l'originale è Ghost Recon, o Ghost Recon, non ho mai capito come si dice. Cosa ne pensate? Anche voi siete degli nostalgici di Zack McCracken? Ah, io sì, no, era sto Zack McCracken. Non eri ancora nato, no, non eri nato. Non lo so, che anno era? Sarà stato 90? 92? No, prima. Oh, fine anni 80. Fine anni 80. Addirittura. Ma cazzo ero nato allora, sì. È un'avventura grafica completamente fuori di testa, del tipo Monkey Island, Dido Tentacle, roba del genere, però boh, sarà stata che è una delle prime che ci ho giocato sia su Commodore 64 che su Amiga, però veramente fa parte talmente tanto della mia infanzia, anche se avevo già altro che infanzia, però non ho mai capito perché LucasArts non ha mai fatto un sequel. E invece in Ghost Recon non ho mai capito perché Ubisoft ha fatto dei sequel che non c'entravano un cazzo con l'originale, che era fantastico, era un veramente un tactical shooter della Madonna, ed è diventato uno spara-spara un po' tattico. Volevano vendere di più, un po' come con Rainbow Six. Sì, però è possibile che non ci sia mercato per un gioco così? Cioè per un seguito vero di Ghost Recon? Possibile. Che tristezza. È la dura realtà, Voi non capite il genio. Allora, io lo capisco anche, però il problema è che lo capiamo io, te e altri 20 persone. Esatto. C'ha ragione, però pensa che fanno il rail simulator, possibile il virtual skipper, possibile non ci sia un po' abbastanza... Sì, ma il problema è che di rail simulator non c'è una versione che vende, mentre di Ghost Recon c'è una versione che vende, esatto, ed è quella che hanno fatto dopo. Ah, ho capito. No, perché Ghost Recon oltretutto aveva il fatto... Non, non metti i cannoni sui treni, ma... No, il fatto che tipo i Ghost Recon, che poi hanno preso appunto la deriva quasi action, diciamo... tu hai sempre il tuo gruppo di persone, se te ne cilindrano uno finisce il gioco, invece lì c'era tutta la tattica, c'era il tuo gruppo, se te ne cilindravano uno ti incazzavi perché era diventato molto più forte, cioè era cresciuto, c'era anche un po' di gioco di ruolo, insomma, boh, secondo me proprio perché era troppo complicato. Io me lo ricordo anche su Xbox, minchia, dovevi usare 18 tasti diversi per fare la stessa cosa, c'era un mio amico che era diventato scemo, mi fa: ma che cazzo di gioco mi hai consigliato? Me l'ho giocato su PC, insomma... Però voi avete dei sequel che non hanno mai fatto e che avreste voluto avere? Sì, sì. A parte che Zack McCracken, c'è stato in realtà il seguito ed era Il pesce d'aprile su Zap. Ah già, minchia, me lo ricordo. Giusto per... finisco qua con il nanetto di aneddoto. Io ho rotto i coglioni per almeno 20 giorni al mio negoziante di allora perché gli facevo vedere Zap, dicevo: vedi, ci sono le foto, hanno fatto la recensione, è uscito, e lui mi diceva: guarda che è finto, è una stronzata, non uscirà mai, e non è mai uscito. Però ho passato 20 giorni almeno, tutti i giorni, a rompergli le palle. Vabbè, comunque io te l'appoggio perché anche per me Zack McCracken è un gioco fantastico della mia infanzia, e rilancio con un Monkey Island 3 fatto dalla gente che aveva fatto i primi due, quindi cazzo, ma inculato. Oia. Come sta? Tra l'altro anche su questo abbiamo fatto Il pesce d'aprile, però su TGM. E poi in generale, visto che appunto voglio proseguire su questa linea dell'ospizio, seguiti, tutti quei seguiti di avventure grafiche che più o meno stavano facendo, ma li hanno abortiti perché a un certo punto si è deciso che il genere doveva morire, e quindi penso soprattutto a Gabriel Knight 4, a Leisure Suit Larry che stava facendo Halo e poi l'hanno cacciato, ha fatto quei giochi bruttissimi, e a Full Throttle 2. Addirittura c'erano delle immagini, cioè proprio era in lavorazione avanzata, credo, e l'hanno ucciso. Insomma, queste cose da vecchi. Tu, Pierpaolo, visto che t'han fregato, ma hai culato Monkey Island, è stato veramente clamoroso perché ha fregato alle grande. Non lo so, perché effettivamente andiamo più che proprio sequel hanno fatto, ne hanno fatti un sacco di sequel, però poi sono stati delle merde. Comunque mi ricordo, sempre parlando un po' di shooter tattici, io adorai Full Spectrum Warrior, il primo. Pandemic era nata come un capolavoro, per quello che mi riguarda, con Full Spectrum Warrior, poi ne ha veramente incasellati uno dietro l'altro, non per caso ha chiuso, secondo me. E se non avesse fatto Ten Hammers, come si chiamava, che era una merda colossale proprio, cioè, non si sa come riuscire a rovinare un brand in quel modo. Altro, anche un coso mi sarebbe piaciuto tantissimo, Wing Commander fatto bene, mi sarebbe sempre piaciuto vedere dopo il 4, fondamentalmente, fino al 4 secondo me era sopportabile. Altro dopo Wing Commander, i cosi, io sono stato un amante ai suoi tempi dei simulatori di volo, che sono morti definitivamente. Anche bravo, quelli con... un bel Falcon 5, una cosa di... io adoravo i DID, gli ex MG Design, con i vari F-22 Total Air, Fighter 2000, compagnia, quelli dai manuali da 600 pagine, sì, con fare la checklist prima di decollare, con la mascherina da mettere sulla tastiera, erano altri tempi. Poi sono morti casualmente anche per quelli, perché ovviamente lo compravo io, te e forse non so chi altro. Io vorrei dire che ho comprato F-19 Stealth Fighter della Microprose per Commodore 64, hanno due cassette, per caricare una missione ci volevano 35 minuti, ogni tanto non andava neanche a buon fine. Una cosa altri tempi. Io giocai Monkey Island 2 su Amiga, che era 12 dischetti che dovevi fare. Che c'era la cosa famosa: aprivi la porta, che mettevi il dischetto per caricare il sonoro tac dell'apertura della porta e poi andava avanti. Sì, poi c'era il sistema, oddio, non mi ricordo come si chiamava, il sistema delle musiche, esatto, cambiavano in corsa fluidamente, e se però dovevi cambiare gli dischetti rimaneva il suono. Bei tempi, sì. Mi sembrano non 10 anni o 15, cioè mi sembrano 500.000 anni fa. È incredibile come siano cambiate le cose. Sento un bambino. E tu, Gianluigi, invece? Sì, infatti, dici qualcosa di giovane. Dai. Okami, è stato un gioco della PlayStation 2 forse che mi è piaciuto di più. Quindi ho sempre desiderato un seguito che comunque non arriverà mai, per come intendo io. Cioè, no, sempre. La cosa incredibile è che l'hanno convertito per un sacco di piattaforme, sì, però non ha mai avuto successo. Cosa? E comunque ha venduto zero, sì, nonostante 2000 sezioni. Vabbè, ma i bei giochi, non so. Boh. Comunque, bello poi che... un seguito di Soul Reaver 2. Bello. È stato sempre proprio la saga in generale di Soul Reaver, è stata sempre la mia preferita. Che diciamo era molto migliore di Tomb Raider. Ma non c'è paragone, dai, mamma mia. Già come ambientazioni, come il carisma del personaggio. Sì, poi c'era questa cosa, mondo della luce, mondo dei... Ma quella, guarda, bellissima. Fantastico, sì, sì, concordo. Anche il costo ai suoi tempi, Vampire, The Masquerade, gli RPG, spesso, era bellissimo, sì, è vero. Non ho mai giocato il secondo, però. Mi sembrava abbastanza più cagoso il secondo. Guarda, ho un ricordo di Super 1 che è stata una cosa, probabilmente mi ha traumatizzato. Infatti mi ricordo che nella parte finale, tipo, entravi in un portale, parlavi col tizio del tempo e finiva là il gioco. Io c'ero rimasto di merda. Era fatto il secondo, sì. Sì, sono quelle cose un po' tristi, effettivamente. Alla fine del primo è stata la probabilità più grossa delusione. Insomma, più che il cazzo, è ora. Comunque... Sono solo un'ora a guardare la schermata. Io spero. Stavo notando che siamo quattro frustrati perché abbiamo citato quasi solo giochi di cui in realtà il seguito l'hanno fatto, ma non c'è esatto, piaciuto. Brutto. No, beh, Okami, dimmi un seguito decente. Stanno facendo Okami Den. Esatto. Ah, beh, scusami. Ma è proprio quello, lo fanno, è che non ci piace. Io sono del. Volevo creare un gruppo su Facebook, adesso c'è Facebook, ma una volta volevo creare un gruppo di persone che riscriveva il finale dei film di merda. Quindi per me è normale parlare di sequel brutti che mi sarebbe piaciuto fossero stati diversi. Ma voi sapete quanti finali orribili di film belli si sarebbe potuto cambiare. E invece l'altro giorno leggevo, non mi ricordo più, forse su Kotaku, sì, su Kotaku, leggevo che alcuni fulminati hanno provato a giocare, non so se avete presente, i giochi di ruolo strategici, quelli con i pupazzetti, che se mi sentono i miei amici che giocano a Warhammer 40.000 mi sgozzano a sentirli chiamare pupazzetti. Come si chiamano, scusa? Si chiamano miniature. Mamma mia! Miniature colorate a mano, possibilmente. O riproduzioni anche. Sì, perché una riproduzione di un elf, di un nano guerriero. Soldatini li chiamerai, dai. Difatti, o pupazzetti o soldatini, però appunto, invece di avere, come dire, la plancia costruita con il libro, che ne so, di storia o il bicchiere messo al contrario, questi qua hanno preso Microsoft Surface, che non so se avete presente, ma è questo, diciamo, touchscreen gigantesco, grosso come un televisore da 30 pollici, e sensibile a multitouch, esatto, e ci mettono sopra i pupazzetti e così creano in maniera dinamica tutto il verde, i boschi. A me sembra un'idea geniale, un po' costosa, però appena, però se uno ha un locale, per esempio, io purtroppo da vero nerd ho avuto anche io il mio passato in andare in mezzo alla sfiga mondiale, ovvero cioè a gente come me, ovvero gente che dalle 10 di sera alle 4 del mattino giocava con i pupazzetti nei locali. Dove si rimorchiava proprio duro, praticamente. Sì, sì, la cosa più grande che rimorchiava. Ragazzo in bikini. No, hai detto giusto, si rimorchiava duro. Esatto. Sì, credo di aver visto forse due ragazze in vita mia, ma entrate per sbaglio. Sì, che sono tua moglie e tua figlia, le due ragazze che hai visto in vita tua, e basta, non hai visto nient'altro. A parte che mio figlio è un maschio. Guarda, vabbè, ci ho provato, dai. Non insultiamo queste... no, beh, purtroppo la mia dolce metà non sa di questi miei passati. Troppo. Purtroppo non dirglielo, che ti potrebbe ancora lasciare. Da robo, esatto. Occhio che poi ti ritrovi a dover pagare gli alimenti se scopri questa cosa. Per colpa del Signore degli Anelli. No, però mi immagino locali del genere che credo esistano ancora nei sotterranei di qualche città. Esatto, qualche città della città degli sfigati. Beh, aspetta, qua a Milano c'è un negozio che si chiama, attenzione, I Giochi dei Grandi, ma non è un negozio di roba pornografica, è un posto dove tu entri e ci sono, non so, puzzle, giocattoli di legno, cose che sembrano molto intelligenti, poi scendi al piano di sotto e ci sono i soldatini. Ma lo sai che è una genialata di nome, porca puttana. I Giochi dei Grandi, attira un sacco di clientela. Ci puoi scrivere tra parentesi sfigati, I Giochi dei Grandi sfigati. Beh, a Milano c'è anche il negozio della Games Workshop in via. Sì, è vero. Ma quello non si nasconde, cioè lì proprio siamo sfigati e ci abbiamo fatto i soldi. Ci sono degli orchi alti 2,20 metri fuori dalla porta che ti aspettano. Sì. No, però l'idea secondo me è geniale, insomma, comunque è un metodo... un po' complicato, un po' costoso, però può essere una figata. Per un appassionato di cose del genere, vedere la plancia che cambia a seconda insomma, di cosa si decide, che si zoom, Secondo me poi peraltro non ho mai capito come cazzo si fa, ah, i miei pupazzetti si muovono di 10 centimetri, però siamo in mezzo alla palude, quindi sono 5, però io ho il cavallo rinforzato, quindi sono 3, cioè diventare scemi, se si automatizza un po' le cose è un po'... Ma io non ho capito, perché non ho visto purtroppo la notizia, ma anche le miniature sono digitalizzate oppure tu appoggi le miniature fisicamente sopra? No, tu appoggi le miniature fisicamente e il Surface. Allora non puoi zoomare, perché che fai? Fai lo zoom dell'ambientazione, però le miniature sono sempre grandi uguali. Bisognerebbe avere tre miniature più grosse. Esatto, grosse come le montagne oppure quanto il filo d'erba. diventa un hobby costosissimo. Appunto. Ma, fra l'altro, cioè, figata giocare così, tipo al Monopoly. Il gioco dell'oca, questa cosa qua. Non è male questa idea. Risico. Poi comodo per portarlo a casa dagli amici. Oh, porto Monopoli stasera. 13.000 euro di plancia, 120 kg. Peraltro ho capito che Surface non è un touchscreen, ma è un... È il sistema operativo, tra virgolette. Sì, no, ma dato che è proprio multi-touch, cioè puoi usare tutte e 10 le dita... Sì. In realtà è tipo lui, cioè c'è una telecamera infrarossi sotto che vede dove poggi le cose e le riconosce quanti punti di tocco. È un mix di entrambi in pratica, sì. Esattamente. Peraltro funziona da Dio. RTS che lo supportano. Sì, Reuse di Ubisoft. Tra l'altro Reuse si faranno questa specie di special edition ultra limitata. Con Microsoft, sì, insomma, con il Surface, il televisore e tutto quanto, ovviamente più a prendere in giro che a venderla veramente, naturalmente. Però faranno il bundle. La compreranno tutti i giocatori dell'NBA e che loro... Però... Oh, figata, costa un sacco ed è un videogioco, lo compro. Ma non si ammazza nessuno. Però effettivamente un strategico, un sistema del genere, insomma... Sì. È carina come idea, eh? Costosa sempre, ma carina. No, l'unica scomodità veramente enorme è che devi stare in piedi, per forza. Io me lo ricordo perché in fiera Reuse, per esempio, lo presentavano sempre con questo Surface, e il problema è che è come una scrivania, quindi fondamentalmente ci sei in piedi piegato a metà quasi, perché cioè, stai comunque appoggiato, non è comodo, non è molto ergonomico come posizionamento, quindi ti fai una sessione di un'ora, poi ti devono raddrizzarti, devono mettere una scopa del sedere e farti stare un po' dritto, perché altrimenti... È come giocare col Wii, però attenzione, perché nella foto qua della notizia di Board Game, i due tizi che giocano sono seduti, eh. È un fake. È piccolo allora. Ma tanto si muovono a caso, è un board game. Non è che... Magari c'hanno le sedie molto alte. Sono dei giganti in realtà. Esatto. Sono giocatori dell'NBA appunto. Magari sembrano seduti ma sono piegati. A 90. Va bene. Esatto. Possiamo proseguire, dai. Direi di sì. Anche il tentacolo viola vuole dire la sua sul page velocissimamente. L'altro giorno ho comprato per fare il regalo di Natale SingStar Vasco e scopro che ha il 16 più come età consigliata, poi giri e ci sono tutte le icone possibili e immaginabili, neanche fosse un gioco, una puntata di GTA, e poi sono andato a cercare e ha la stessa rating di Call of Duty 4 e di per esempio Call of Juarez 2. 16 o 18? No, 16. Ah, sì. Mazza, Call of Duty Modern Warfare 2 ha 16, non ha 18? No. Ah, il primo Call of Duty, il primo Modern Warfare. Minchia, se non mettevano il 18. Infatti, dicevo, mazza. Quindi la cosa mi è sembrata un po' buffa, cioè questo dimostra veramente quanto sia assolutamente assurdo. Ma non è cambiato il peggi dal... No, è cambiato il logo. No, dimmi, scusa, ti ho anticipato. No, io pensavo che fosse cambiato anche il metodo di scelta delle cose, appunto, dell'età. Hanno aumentato il numero di fasce di età, forse. Che sì, però non... Cioè... No, hanno cambiato... No, le fasce è rimasta uguale, hanno cambiato... No, cioè, hanno aggiunto soltanto dei bollini, hanno aggiunto in pratica. Okay. E in più quello lì sugli MMORPG, ho scritto... Cioè, il gioco poi online può differire nella valutazione, perché ovviamente se becchi uno che ti bestemmia in faccia... certo. Se becchi un nazista ariano... Esatto. Vabbè, qua il problema palesemente è che nelle canzoni di Vasco parla delle cose che succedono in Call of Duty e non c'è modo di distinguerlo con i bollini. Cioè Vasco dice cazzo, in Call of Duty lo vedi il cazzo, vabbè, non è proprio così. Però insomma, penso sia quello il fatto, le tematiche sono le stesse, solo che in uno le giochi, nell'altro le senti un attimo accennate. No? Quindi sicuramente è sbagliato Vasco, sicuramente SingStar è sbagliato. Sicuramente è sbagliato Vasco è una frase perfetta. Visto che voi siete tutti addentro al mondo, ma... dei videogiochi ovviamente, ma in Inghilterra dove il PEGI è legge, no? Non ho capito se è il PEGI che è diventato legge o se è la BBFC, quello che cazzo è che decide a che età bisogna vendere i giochi, però un più 18 in Inghilterra viene venduto solo agli adulti, mi sembra, no? È corretto? È un po' più sottile, diciamo che la BBFC è stata tolta di mezzo dallo Stato e ha detto invece di avere il PEGI europeo e poi la BBFC che ogni volta li rivaluta internamente, magari può differire, facciamo saltare loro e utilizziamo soltanto il rating del PEGI. Che però è legge. Che però sì, vabbè, legge... Cioè. No, non perché... è che siamo soltanto noi che non facciamo rispettare la vendita a 18 più, diciamo. No, perché mi chiedevo se anche in Inghilterra, pensavo fosse proprio diverso il sistema di rating, perché magari in Inghilterra, che è un po' più restrittiva la cosa, un SingStar non te lo vende, cioè ha un rating basso. No, il rating è europeo, il PEGI è proprio europeo. È differente rispetto ovviamente all'ESRB americano, però il PEGI è europeo, quindi in tutta Europa. A meno che ovviamente non fanno una versione, tipo in Germania, che fanno le versioni appositamente edulcorate, allora in quel caso hanno differente valutazione. Sì. Però tendenzialmente anche il fatto del 18 più probabilmente è che magari i negozianti sono perseguibili, però poi non so se effettivamente lo applicano, devo essere sincero, anche in Inghilterra, ma è che da noi neanche sono perseguibili, il problema. No, infatti, l'altra cosa che ho visto in televisione è la pubblicità di MediaWorld, proprio della limited edition del 360 di Modern Warfare 2, con un bel bollino 18 più rosso in calce all'immagine alle 3 del pomeriggio, quando tutti i ragazzini possono vedere. E ovviamente vedere un Xbox nero con scritto 2 di serigraffato sul coso, è ovvio che lo vuoi, insomma, cioè detto papale. Insomma. Ma per il 2 lo vuoi? Assolutamente solo per quello. Ne ho cambiati 3. Quindi anche se me ne danno uno nero col 2 va bene uguale. Ah, ma sì, no, vabbè, a lui che parlo accennato alla Germania, ma forse ne avevo già parlato in uno dei vecchi episodi, del fatto che in Germania è un po' più fiscale la cosa, ci sono proprio... Appena. Le sembra di stare comprando un film porno, c'è la tendina nel negozio e dietro ci sono c'è tipo Gears of War dietro la tendina, invece che Moana e Cicciolina. Sì, ne avevo accennato nel primo cosa si impari? Episodio. No, inquietante, per me è come quando vai in fiera, tutti i giochi 18 più alla Gamescom, piuttosto quando era la Games Convention, stanno in una zona separata che tu in pratica da fuori non vedi, da fuori del stand. Io tra l'altro la prima volta che ci andavo quest'anno e inizialmente non capivo, gli chiedevo, ma scusa, ma posso entrare? Cioè cos'è sta cosa? Perché sono nascosti? Ho detto, sì, tranquillo, vai. Tu sei vecchio. Sì, immagini esatto. Una presentazione speciale a porte chiuse, dici che demo fantastica sarà là dietro, poi in verità è una normale, solo che... Sì, infatti. E giusto per chiudere e dare anche un po' di contentino a Palmisano che è a calcetto, anche Traveler's Tales, che sono mi pare quelli di Lego Indiana Jones e Company. Esatto, brava gente. Anche i Traveler's Tales hanno detto che i giochi per PSP Go costano troppo, ma loro sono stati, se non erro, abbastanza, come dire, duri sull'argomento. Perché, vado a prendere la notizia, dicono proprio, se continua così la PSP Go morirà. Via il cazzo, no? Sony will make downloadable games cheaper or the PSP Go will die. Che fa molto... Quindi proprio anche gli sviluppatori adesso, peraltro sviluppatori di giochi che su PSP Go credo, cioè che su PSP siano andati anche abbastanza bene, i vari Lego qualcosa. Sì, suppongo, penso di sì. Se poi ti chiamo al volo Palmisano, perché lui l'aveva voluto mettere, lo voleva mettere nel podcast precedente, a questo punto gliel'abbiamo censurato perché appunto aveva rotto il cazzo, come diceva la persona. Questo era violento, come punto era violento con Fuccino, poteva finire male. Esatto, no, però hanno detto veramente l'aria fritta, nel senso che cioè, è indubbio che se piace più Coco andare avanti con questa politica... Sì, cioè, perché uno dovrebbe comprarsi da gente che sono 5 anni che fa solo giochi Lego, cosa ti aspetti se non aria fritta? Dai, poverini, anzi. Ma dai, hanno rotto i coglioni, è su e basta. Tra l'altro, scusate, ma dato io ho visto che Lego Rock Band non è di Electronic Arts. Cioè, per esempio, no, è di MTV Games e di Warner Bros. Sì. Esatto, sì, ma... perché Traveler's Tales sono di Warner Bros. Praticamente. Scusa, ma il logo Rock Band non è di Electronic Arts? No, è di MTV Games. Non è di Electronic Arts il logo? Esattamente. Electronic Arts è mero distributore, non fa neanche marketing, pubblicità, è tutto proprio MTV, Ah, non avevo capito. Adesso capisco un paio di cose. Vedi l'ignoranza di noi che non viviamo insider. Va bene, allora, altro? Qualcos'altro? Niente? Andiamo avanti. No, vogliamo spalare un altro po' di merda su PSP Go o su Palmisano? Che è pure assente, quindi c'è ancora più gusto. Che però, che appunto dovrebbe essere più umile, ricordiamolo. Quello che... dovrebbe essere più simile a Gesù. Va bene, io direi adesso di passare all'angolo di Gianluigi, ovvero ce l'ho con. Con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Ma con chi credi di parlare tu? Ce l'ho con l'assistenza di una nota marca di frigoriferi. Vedete, mi si è rotto il frigorifero di casa. Quando l'avevamo acquistato, al tempo eravamo stati abbastanza accorti da fare la garanzia allargata. Poi che avevamo la garanzia di 5 anni. E quando si è rotto abbiamo chiamato l'assistenza, che molto gentilmente ci ha proposto due opzioni. Un rimborso di 250 euro, contro il frigorifero che avevamo comprato quasi a 500 euro, o una sostituzione del frigorifero con uno più piccolo e più vecchio. Un modello ancora più vecchio. Praticamente il mio frigorifero è uscito di produzione. Da quello che so, praticamente se è uscito di produzione ci dovrebbero dare il modello nuovo, giusto? Cioè, per me è una cosa assurda. Infatti pensavo pure di chiamare addirittura la Kodakons per ovviare a questo problema, che secondo me è veramente assurdo. Voi cosa ne pensate? Ne penso che, traslato nel mondo dei videogiochi, devo dire che se capisco... È come se ti si rompe la pistola e ti mandano indietro la PlayStation 2. Non va tanto bene. Assolutamente no. No, più che altro effettivamente dovrebbe esserci un di pari livello, tipo adesso prendo l'esempio dei ragazzi di Dreamcast, che a tutti e tre gli si è fulminata la PlayStation 3 per motivi diversi, e se uno aveva la PlayStation 3 da 60 giga, quella giapponese, il primo modello, quello rotocompatibile, te lo devono cambiare con lo stesso modello, con le stesse feature. Quindi è giusto che ti incazzi per il frigorifero, secondo me. Cioè, ma mi dà fastidio proprio che ci giocano sul punto che comunque il frigorifero è una cosa vitale, no? Sì. Quindi certo, ti devono mandare per forza subito qualcosa. E in questo qualcosa dovrebbe essere sta merda piccolissima. Comunque non so come cosa succede quando effettivamente non esiste più in produzione. Teoricamente ti devono mandare il modello nuovo. Però se ti sono per PlayStation 3, teoricamente ti possono mandare la Slim e tu ti attacchi al cavolo se c'avevi quella lì con la retrocompatibilità e tutto quanto. Non è così, però effettivamente con... per quanto riguarda la PlayStation 3 ti mandano... cioè ti allungano la garanzia quando ti si rompe, quindi alla fine... No, sicuramente se non hanno più in produzione la PlayStation 3 ti daranno la Slim con, a mio avviso, un qualcosa che vada a pareggiare la mancanza. Ti danno anche una PlayStation 1, così. Una PlayStation 2, perfetto, quella cicciona. No, però secondo me, adesso prendendo spunto dalla disavventura di Gianluigi, io noto che in Italia siamo messi malissimo da questo punto di vista, perché... Di garanzia, sì. Perché, prendiamo ma solo da questo punto di vista, Per il resto per il resto va tutto bene. E tu posa quel Duomo di Milano. Comunque, no, perché per esempio, adesso citando sempre esempio Gatsu di Dreamcast, che gli si è rotta la PlayStation 3, lui è andato da GameStop, gliel'ha data indietro, e loro l'hanno mandato in assistenza e ci hanno pensato loro. Se lo fai in Italia, GameStop ti dice no, devi andare tu all'assistenza, e loro non prendono assolutamente in carico la console. Non so se ti ricordi, Pierpaolo, ma ho una delle mie tante domande audio dalla macchina. Me lo ricordo perfettamente. Era proprio su questo argomento, che appunto un mio amico aveva avuto questa disavventura ed era diventato scemo perché... Sony dà un anno di garanzia e può farlo perché di legge il costruttore dà un anno di garanzia ed è il rivenditore che deve dare 24 mesi di garanzia, e quindi era GameStop che doveva cambiarglielo. GameStop non gliel'ha cambiato, poi a ripararglielo, poi ha trovato un centro assistenza che gli ha dato una mano e amen. Però secondo me siamo noi in Italia messi male. Devi forzare tanto la mano per sì, riuscirci in Italia, cazzo, cioè devi andare al GameStop con la finanza e dici adesso se tu non me la cambi fatevi due chiacchiere con loro, perché così devi fare purtroppo in Italia, cioè sì, ci stanno... avvocati pure, dico cosa di no, ma basta tendenzialmente sempre il suo discorso, dipende chi ti si parla davanti, che purtroppo in Italia c'è la questione del, tra mille virgolette, del raccomandato, cioè se tu vai lì e dici mi devi cambiare questo accordo, ti dicono di no, e tu dici ok, allora insieme a me telefoniamo alla finanza, alla persona XYZ e vediamo se non lo fate, cioè messi alle strette comunque dovrebbe essere proprio legge che il rivenditore è obbligato a farti la sostituzione. Eh sì, può scegliere. Sì. solo ovviamente loro ci marciano perché magari gli arriva il ragazzino di 14 anni o comunque il padre di famiglia che non sa niente, che gli è il figlio gli sta rompendo le palle da 3 settimane gli si è rotto la PlayStation 3 e quindi alla fine prende e ne ricompra un'altra oppure paga la riparazione. Ah, io ormai sono diventato una bestia, quando qualcuno mi chiede un consiglio andate lì, chiamate chiunque, coda, asso consumatore, finanza. Comunque avete ragione, cioè avete ragione voi che chiedete la sostituzione, insomma il discorso a 2 anni, perché comunque così deve essere, c'è poco da fare. Io non so sul discorso se effettivamente cosa ti danno se è uscita fuori di produzione, io non sono così convinto che ti debbano dare un modello più nuovo, se devo essere sincero. Ma comunque anche se mi danno il modello nuovo, un frigorifero di pari valore almeno, no? Non lo so, non sono sicuro, perché cioè, non è che possono darmi una schifezza di 100 euro, però il valore d'uso te l'ha fatto scendere il valore di quel frigorifero e tu gli riporti indietro, cioè non sono convinto, cioè secondo me dovrebbe semplicemente far girare i giochi, nel caso di PlayStation 3 l'importante ti dia una macchina che faccia girare i giochi PlayStation 3 e quindi là è facile. Nel caso del frigorifero non vorrei che basta che ti diano un frigorifero che aspetta. Cioè bisogna indagare su quel punto, ti danno dei blocchi di ghiaccio. Esatto, una fornitura. Una borsa frigo, tieni. Bene. Il sacchetto del supermercato, quello per i surgelati, ti danno. Peraltro io che sono paranoico, quando facciamo la spesa l'ultima cosa che prendo è il gelato, perché ho paura che mi si sciolga in macchina, lo metto due buste di quel genere lì. E la mia dolce metà mi insulta sempre. Va bene, comunque io direi di andare ai giochi giocati. Prepare to qualify. Allora, questo mese ho giocato a Modern Warfare 2, che hanno giocato tutto il mondo. Noto che continua a vendere milioni e milioni di copie, quindi sarò breve. Secondo me è un grandissimo gioco in multiplayer. In single player sono tante belle missioni che non c'entrano una mazza l'una con l'altra, perché la sequenza narrativa è veramente messa lì giusto per tenere queste scene da film, che sono i vari livelli. E secondo me, non l'ho trovato corto il single player, perché tanto io ho poco tempo per giocare, quindi mi va benissimo quella durata lì. L'ho trovato talmente sconclusionato che quando sono arrivato alla fine ho detto vabbè, poteva finire solo così, perché veramente i colpi di scena, se uno ha giocato Call of Duty 4, sono già tutti telefonati. E alcune scene, tipo l'arrampicata sulla cascata ghiacciata e cose del genere, potevano essere, insomma, sono perfettamente inutili secondo me. È un bel gioco, come vi hanno detto molti anche voi nel podcast di multiplayer, è un gioco da giocare a un livello di difficoltà medio-basso, in modo che tu ti godi questo circo, questa narrativa che non c'è. Come? E ti godi questa narrativa che praticamente quasi non c'è. Sì, però... no, appunto ti godi proprio queste scene da film, dove, perché appunto se lo metti troppo difficile, rifarti 30 volte la stessa scena da film, ti spacchi i coglioni. E poi la scena incriminata, quella No Russian. Effettivamente la prima volta che ci ho giocato mi ha un po' colpito, però andando avanti con la trama ho capito che l'hanno messa lì giusto per appunto parlare di quella scena, perché arriva come la seconda missione alla terza, non capisci perché sei infiltrato, non capisci cosa sta succedendo, il finale della missione è talmente telefonato che gliel'ho quasi detto io a Infinity Ward, insomma, il single player mi ha deluso per questi aspetti. Potevi dirgli qualcosa di meglio allora, scusa. Io ho detto Suka anche, visto che mi costa 69 euro. poi ho giocato Forza Motorsport 3, anche qua ottimo multiplayer, ho giocato anche con dei ragazzi del TFP Forum, ci sono un sacco di modalità, gatto top, gare varie, insomma molto molto ben fatto. E il single player, come dicevo prima, l'ho trovato un po' moscio, anche perché non c'è sfida, insomma le gare sono abbastanza semplici da vincere. Quello che ho trovato sono le piste, che potevano essere un filo, potevano trovare delle piste un po' più divertenti da guidare, che io sono un po' appassionato ai giochi di guida, mettete Spa, che almeno in Shift c'era, e, insomma, comunque abbastanza noioso, e devo dire che tecnicamente l'ho trovato bello, ma non così bello come mi aspettavo, freddo, molto freddo, senza effetti, senza... Insomma, arrivando da Shift certe cose ti mancano, anche se va a 60 frame al secondo dici, però non mi emoziona, ecco. E poi l'ultima cosa che ho riscoperto per caso, perché ce l'ho installato sull'hard disk, Defcon 5, non so se l'avete mai giocato, Defcon 5, è un gioco di strategia di, penso, 3 anni fa. No, massimo penso 3 anni, non 30. Di più, forse anche meno. E chi ha visto War Games degli anni 80, comunque è un gioco alla Risico, però in pratica la plancia in tempo reale, e molto stilizzata come grafica, con una musica ambient quasi inquietante, visto che si stanno lanciando testate termonucleari globali, e è un gioco strategico da giocare principalmente online, si può giocare anche offline con dei bot, molto molto carino, se volete provarlo ve lo consiglio, perché peraltro costa pochissimo, quindi si compra direttamente, se cercate DEFCON 5 game si trova subito il sito, quindi... Beh, non dovrei dire una cazzata, dovrebbe essere degli stessi di Darwinia, se non ricordo male. È possibile, sì. Loro sì. Sono dei piccoli geni, sì, gioco beh, bellissimo. Questo gioco qua è proprio cioè, è talmente strambo che emoziona in certi punti, vedere queste lucette bianche. Poi c'è scritto, metti il mouse sopra, 8 milioni di morti. Minchia, ragazzi. Sono... Sì, cazzo, inquietante. Comunque, questi ma tu sono... ti senti in colpa quando leggi 8 milioni di morti. No, però effettivamente non è che godici, mica sì, gli ho fatto fuori, che ne so, Città del Messico. Dici, cazzo, 8 milioni... Cioè, è inquietante perché è talmente freddo, non c'è nessuno che parla, non c'è un personaggio, è solo il disegno del mondo molto stilizzato, con un colore blu luminescente, e queste tracce di missili che vanno dalle tue basi fino alle altre città, poi vedi apparire i loro cacciabombardieri vicino ai tuoi radar, cioè è talmente ovattata l'atmosfera che non è che dici cazzo ce l'ho fatta, boh, è particolare, decisamente particolare. Guardate un film filmato su YouTube che secondo me merita. Bene, io ho detto questo, chi tocca? Gianluigi, vai tu? Vabbè, intanto non l'ho giocato tantissimo, però le cose che ho giocato sono state Torchlight, che potremmo definire il Diablo dei poveri. che cos'è, scusi? Sì, pensa, Diablo più brutto. Ah, ok. È più semplice. Ok, ma per PC immagino. Sì, per PC. Okay. Ma un giochino proprio, comunque simpatico, graficamente non è neanche tutta questa gran cosa, cioè può girare su qualsiasi PC, penso. E poi l'altro è, dopo averlo sentito nel podcast di multiplayer, appunto, è League of Legends, che praticamente è come Warcraft, solo che si usa solamente l'eroe, ecco. Ancora non ho capito perché muoio continuamente. non so, non riesco a capire perché gli altri mi distruggono avendo pure il mio stesso eroe, ma lo scoprirò solamente vivendo probabilmente. E poi, però se muori sempre, non lo so veramente, dico, vinco sempre le cose, le campagne, ma io non riesco più a fare più di 2-3 kill agli eroi avversari, non lo so. E muoio un sacco di volte, proprio un sacco. L'ultimo invece è stato proprio così, come passatempo, Peggle Knight Deluxe. Che è Peggle, penso, nuovi livelli e basta, non c'è nient'altro. Molto sì, vabbè, poi mi gioco tantissimo a FIFA. Ecco. Vabbè, ma quello ormai è un classico, insomma. Andrea? Sì, allora, io ho ripreso in mano del For Dead 2, che l'avevo mollato per... questioni lavorative tra per 5 minuti e mezzo, no, per addirittura 2 settimane. E ci sto giocando, e poi ho riscoperto il mio lato oscuro che ogni tanto torna fuori con Cooking Mama 3 e Buzz Quiz World. Allora, il primo adesso uscirà questo podcast settimana. ma io mi diverto ogni tanto a provare queste robe. Dunque, Cooking Mama 3 è questo emozione. No, beh, allora, la solita minchiata. Pensate, le novità fondamentali sono che puoi fare la spesa, c'è cioè questi minigiochi con della gente che tenta di impedirti di fare la spesa, una cosa che non ha nessun senso, e puoi importare come ingredienti gli ortaggi che hai coltivato in Gardening Mama, che però io non ho, e quindi non ho potuto provare questa opzione emozionale. E quindi adesso lo comprerai, immagino. Non credo. No, quindi però, proverai con Farmville, no? Si tenta qualsiasi gioco in cui ci siano delle piante, cercherò di importarle. Però, volendo dire una cosa secondo me interessante di sto Cooking Mama 3, è che i primi due, perché io li ho provati tutti, avevano questa cosa che tu facevi le ricette, immagino sappiate che comunque è una roba minigiochi in cui devi cucinare piatti da tutto il mondo, e le ricette, per quanto riassunte e semplificate, erano abbastanza trattate in maniera realistica, cioè facevi comunque cose che fai quando cucini quelle cose. In questo qua, probabilmente per renderlo più videogioco, hanno messo delle robe che non c'entrano nulla, cioè tipo tu stai mettendo gli ingredienti nel piatto e il piatto si muove, lo devi centrare, ti arrivano sul tavolo delle cose che devi spennellare magari con la salsa, e in mezzo agli ingredienti giusti arriva roba tipo ossa, e tu non devi pennellarle se no ti dà l'errore, cioè Madonna. Così. E sei divertito con questa minchiata? Tantissimo, ho goduto, guarda. Sì. E vabbè, poi Buzz è il nuovo Buzz, c'è qualche quiz nuovo, una cosa seria è che hanno migliorato l'online, si può giocare in 8 contro in 8 e c'è la chat vocale che non c'era nel precedente Buzz PS3. Poi è Buzz, tra l'altro a me piace di più Sinit perché secondo me sono più carini i giochini, e poi vabbè, io sono appassionato di cinema, ma su Cinito Online non c'è nessuno e non c'è mai stato nessuno. Su Buzz invece si trova un sacco di gente per giocare online. Okay. Sì, infatti, e soprattutto poi adesso che hanno messo la chat vocale, che è un po' importante, se no ti senti veramente un coglione a giocare a Buzz senza poter parlare con nessuno. E tu Pierpaolo, oltre che poi ne parlerai, ne hai già parlato, ne parlerai nei vari podcast multiplayerieschi, ma qualche gioco un po' particolare che... Proprio di magari faccio proprio di recentissimo, a giocare, vabbè, a parte appunto Assassin's Creed 2 che ne ho straparlato, vi rimando al podcast multiplayer, sto mandando avanti, proprio freschissimi ho iniziato a giocare sia a Zelda per DS, perché appunto come dicevo prima da sempre amante di Zelda. Ieri mi è arrivato, ieri. L'hai iniziato? Ho iniziato, mi piace un sacco. È arrivato a dorso di mulo? No, è arrivato con la scatolina vera. Sì, che è appunto, secondo me è arrivato, quando l'ho preso? Vabbè, metà settimana scorsa, più o meno, molto molto carino, cioè proprio piacevolissimo, non gli si può dire nulla. Forse solamente un pochettino palloso nelle parti con il treno, perché comunque ogni tanto c'è queste camminate lunghe, come appunto a bordo del treno, dove l'unica cosa che fai, tiri la levetta per suonare. Fa giù giù per far scappare i maialini dalle rotaie, che non è proprio il massimo, diciamo, della questione. Beh, però per il resto no, è proprio bello. Meglio del mare di quell'altro, dai. Esatto, quello sì. Di lui, sì, sì, io ho adorato comunque anche Phantom Hourglass, il primo per DS, questo sembra un po' più carino, che hanno limato tutte le parti, insomma, che erano un po' più noiose su appunto Phantom Hourglass, tipo il solito discorso del tempio principale da rifare 70 volte, qui invece sono un po' più paraculo, ti fa salire le scale in modo che eviti di rifare le parti precedenti, cioè se vuoi le rifai utilizzando i poteri nuovi per prendere roba che magari non avevi preso, però non serve, finito il gioco. Quindi comunque carino, belle ambientazioni, vabbè, poi ovviamente è Zelda. E poi l'altra cosa che, su cui ho vomitato sangue, ma se non sbaglio anche te Andrea che l'hai fatto, Heavy Rain, o sbaglio? Sbagli. Sì, non sono stato io. Purtroppo avrei voluto, ma non ho io la debug, quindi. Ah, ok. Comunque anche appunto Heavy Rain, che ci è arrivata questa build che oggi è uscita, ieri pomeriggio è uscita l'anteprima perché eravamo tutto sotto embargo, quindi ne parlo veramente soltanto da voi perché sul nostro podcast non ne potevo parlare. Esclusiva. Esatto, veramente esclusiva, che comunque, come ho scritto nel provato, che vi consiglio di leggere su multiplayer.it, che c'è anche un po'. No, andate su Next Game! Lo sapevo, infatti, da precario. No, non andate su Next Game, che mi sta sulle balle quello che l'ha scritto. E questo è il podcast più, come dire, democratico di tutti. Tipo... Sì. Andate su Spazio Games, dai, così li abbiamo detti tutti. Esattamente. Dai. Basta, dai. Comunque è bello, cioè è veramente un'esperienza narrativa eccezionale, cioè veramente bisogna andare a vedere dove riuscire ad andare a parlare con la storia David Cage, per dirlo alla francese, David Cage, e bisogna andare a vedere dove va a finire con la storia. Comunque è veramente molto coinvolgente, avvincente, narrata benissimo. Il problema, come problema fra virgolette, come si è da sempre detto, che sembra, cioè veramente un film interattivo dove tu spingi sempre al momento giusto i pulsanti, poi con tantissime trovate geniali, tipo è bello che nelle situazioni di tensione o quelle un po' più di terrore hai tutti questi pulsanti che ti girano attorno e che praticamente ti rendono difficoltoso capire quale premere in quel momento, cioè ti mettono effettivamente ansia, oppure quella trovata geniale che ti fa spingere contemporaneamente numeri crescenti di pulsanti, cioè tu inizi tipo all'inizio ti fa fare la prova e tu devi raccogliere le buste di tua moglie che torna a casa, ti fa spingere prima X e poi ti aggiungi il quadrato, e allora tu devi tenere il primo tiro temporaneamente, oppure c'è stato un altro punto in cui tu devi salire un pezzo con del fango e praticamente ogni volta che metti il primo piede, tu devi premuto X, poi ne metti un altro, devi aggiungere il quadrato, poi devi aggiungere R1, cioè ti ritrovi a grovigliarti sul joypad, e rende bene l'idea della difficoltà nel compiere quel movimento, cioè comunque è studiato. Sì, però scusa, domanda, anche pensando a quello che succedeva con Fahrenheit, parlo senza averlo giocato a V-Rain, quindi non ne ho idea, il fatto che ci siano i tasti da premere e poi aumentano i tasti e via dicendo, non ti fa concentrare un po' troppo sulla meccanica e distoglie l'attenzione poi dalla narrazione che dovrebbe essere la cosa più figa del gioco? Guarda, primi si fa il discorso Fahrenheit, che lui dopo che fece uscire Fahrenheit disse la prossima avventura grafica non faccio Quick Time Events visto che mi avete tutti condannato e Fahrenheit sono solo Quick Time Events. No, diciamo che sono di due passi, nel senso che durante il gioco normale, quindi durante la narrazione, tendenzialmente fai tutto solo con l'analogico destro, cioè fai i movimenti come dire, intuitivi, tipo per aprire la porta magari fai una mezzaluna in un certo modo con l'analogico, quindi diciamo non ti distraggono perché usi sempre soltanto quello, quindi non devi concentrarti a capire che pulsante spingere, è solo un movimento. Nelle situazioni invece tipo di combattimento e così via, essendo che non c'è niente di narrato, chiaro, cioè devi stare attento, ma il pugnale che ti sta arrivando piuttosto che il cazzotto e così via, ti tiene in tensione bene, cioè riesce a darti quella cosa lì senza che ti distrai troppo dallo schermo. Certo, all'inizio magari devi guardare il tasto, quindi non vedi proprio nel momento preciso quello che avviene. Vabbè, però, sì, certo. Però alla fine dà molto bene l'idea. L'unica cosa è che non è tanto avventura grafica, nel senso che non c'è proprio un risolvere enigmi, fondamentalmente. Tu raccogli pochissimi oggetti e quelli che li raccogli sono contestuali all'azione, del tipo far andare a dormire tuo figlio e ti dice papà, trovami l'orsacchiotto, e tu giri la casa, prendi lo specchietto e glielo porti, non è che lo metti nell'inventario, ce l'hai in mano, vai da lui e glielo consegni. E le parti, quelle investigative, sono studiate bene, nel senso che tu con il poliziotto tu vai in giro praticamente a raccogliere questi indizi, perché hai degli occhiali speciali, tu spingi un pulsante e ti fa vedere gli indizi che sono nella zona. Tu in pratica li raccogli, cioè più che li raccogli, li esamini sul posto, lui li memorizza in questi occhiali futuristici, e poi quando torni in commissariato in pratica tu vedi tutti gli indizi raccolti, però tu ti limiti a selezionarli e poi lui fa le connessioni logiche, quindi non è che c'è una parte di enigma o di puzzle che ti fa dire ah vedi che ho scoperto, che figata, meno male, è tutto molto guidato, però cioè comunque è un'esperienza di gioco, cioè è uno di quei giochi veramente difficili da descrivere, che se non giochi può sembrare una stronzata. Esatto, cioè se non lo giochi può sembrare una stronzata, di sicuro è uno di quei giochi, all'Uncharted, che se ti fai mettere seduto nel cantiere, l'ho giocato veramente fino alle 5 di mattina, mi sono fatto tutta la demo di corsa perché avevamo problemi poi altrimenti a rigiocarlo il giorno dopo, e ho avuto di fianco un mio carissimo collega che mi è stato di fianco tutta la notte, stavamo bevendo insieme e se l'è gustato tutto mentre io lo giocavo, comunque nel caso uno andasse in coma l'altro esatto, sappiamo il motivo, perché è stato 5 ore a bere vodka. Per cui è stato insomma piacevole, assolutamente. Fra l'altro, da come li descrivi i comandi con analogico sembrano un po' come inizialmente avrebbero dovuto essere quelli di Fahrenheit, e poi aveva fatto un po' marcia indietro. Identico, esattamente come sembra proprio quello che, anche molto la trama ricorda in determinati spunti quella specie di surreale ipnotico com'era Fahrenheit, no? Che lui ti controllava a distanza, quella specie di seduta spiritica. Può ricordare un pochettino certamente quello, diciamo, però sì, secondo me lui con Fahrenheit aveva abbozzato molto e qui ha tirato fuori il grosso, diciamo, ha tirato fuori le palle, come si dice. Però purtroppo c'è quel problema che le scene come l'inizio, cioè l'inizi sempre nello stesso modo e le finisci sempre in quel modo, cioè è vero che nel mezzo fai di tutto, te ne puoi fregare, puoi fare ogni cosa, però comunque alla fine quell'informazione ti deve arrivare, quel personaggio deve apparire. D'altronde certo. Sarebbe impossibile. Infatti. Insomma, cioè, sì, soprattutto poi se vuoi farlo così cinematografico. Peraltro tu dici, vediamo dove andrà a finire con la storia di David Cage, speriamo non a fanculo come in Fahrenheit. Esatto. Come fare un peggioramento sul finale. Lui è un mostro da presentazione, lui ogni volta che sente le sue presentazioni in fiera veramente ti affascina, e diceva per l'appunto che se tu vuoi fare un'avventura grafica bella, coinvolgente, cioè o veramente ti metti a tavolino a studiare tutti i bivi di ogni scelta, ma poi dice ti viene fuori un documento di design infinito, perché devi partire, quel bivio porta a quel bivio, devi fare un libro game, praticamente non finisci più, altrimenti dice l'unica, io ho trovato questa soluzione che è quella, allora io devo narrare questa storia, però quello poi che avviene al suo interno ti lascio discrezione di scegliere come farlo avvenire, però comunque io quello ti devo raccontare. Sì, lui è bravo soprattutto a dire quello, a dire alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire. È un emule di Molyneux, di Peter Molyneux, perché è un altro di quelli che gli piace. Per esempio quando presentava Fahrenheit diceva, no ma tranquilli, qui Time Event ce ne sono due o tre. Bene, allora dovremmo aver finito i giochi giocati e adesso passiamo al consiglio del tentacolo, la nostra penultima rubrica oggi. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Potemkin. Bene. Pierpaolo, hai qualche consiglio da darci extra videoludico? Consiglio, fammi pensare, di libri o di film. Vedo un Christmas Carol, quindi non vorrei rubare la scena. ancora consigliare anch'io, poi dopo arriverà chi meglio di me lo potrà descrivere. Sto pensando anche agli ultimi libri, ho recuperato il libro di quello di dello scrittore di Fight Club, quello con quel nome Chuck Palahniuk. Esatto, il libro quello lì, Gang Bang, sì, che mi sembra si chiami Gang Bang, se non ricordo male. Interessante! È un libro, mi sembra si chiami Gang Bang, mannaggia, mi sto girando nel frattempo a guardare in libreria se lo trovo, che è praticamente il libro che racconta di... è brevissimo, io sono letto nel volo mentre andavo, non mi ricordo dove, se devo essere sincero, e praticamente racconta di... questa sorta di pornostar, no, una pornostar che sta finendo la sua carriera e vuole lasciare un gesto clamoroso, vuole battere praticamente il record mondiale appunto di gangbang, quindi di farlo con il numero maggiore di persone una dietro l'altra, e praticamente fra tutti quelli che si mettono in fila per potersela fare nei peggio modi praticamente, finiscono, ruota attorno a questi tre soggetti, lui neanche gli dà il nome all'inizio, chiama soggetto numero X, Y, Z, e praticamente ruota attorno al fatto che uno di questi tre soggetti sembrerebbe essere il figlio praticamente che lei aveva avuto all'inizio della sua carriera porno e che poi non aveva mai più riconosciuto e che vuole assolutamente praticamente trovare quel secondo per poter parlare alla madre mentre se la sta scopando, praticamente per dirle che è suo figlio. È geniale, tra l'altro è ultra scurrile, proprio a livelli inverosimili, si legge tutto di un fiato, ve lo posso consigliare, mi sembra si chiami Gang Bang. Sì, sì, si chiama Gang Bang, ho guardato. E merita, perché a parte i suoi libri meritano tutti, perché sono brevi, si leggono di un fiato, l'ho beccato. Comunque, giusto per capire quando cambiano i titoli in italiano, mentre Fight Club è rimasto uguale, Gang Bang è il titolo italiano e il titolo inglese è Snuff. Solo per dire. Ah, esatto, sì, infatti dico che è stato lo Snuff Movie, perché si ricollega al fatto che a quanto pare lei durante questa pratica alla fine ci vuole uccidere, perché così resta ancora di più nella mitologia, e poi si collega al discorso degli Snuff Movie, e quindi c'è di mezzo anche tutto il discorso sulla sua eredità. No, è geniale, veramente ve lo posso consigliare. Anche perché a me Fight Club è piaciuto tantissimo, e anche un altro paio di libri dello stesso autore, quindi. Lui è clamoroso. Sì. Bene, Gianluigi? Allora, sì, io consiglio due film, anzi, consiglierei per un'altra cosa che sarà una sorpresa per dopo. Comunque, uno è un film, il film di Ecco Zalone, Casa dalle Nubi, che onestamente era andato al cinema aspettandomi una cagata, invece è un film veramente divertentissimo, lì dall'inizio alla fine, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ve lo consiglio spassionatamente perché veramente è un film, cioè un film comico a 360 gradi. Cioè, se uno deve mettere a confronto, dico, con quelle altre minchiate di De Sica e Boldi, proprio è il giorno e la notte. Meno male. Sì, veramente è un film da 8, secondo me. L'altro è Christmas Carol, che è appunto come citava Pierpaolo. L'ho visto in 3D, con le lenti polarizzate, tra l'altro ho pure qui i miei occhialini molto fighi, sì. Mi costava 10 euro, quindi deve essere per forza un bel film, ed effettivamente è un film che merita, è la storia appunto del canto di Natale che ci è stata proposta in più salse nel cinema. Sì, diciamo che è un film che merita, sì. Un Jim Carrey, il 3D, secondo me poteva essere stato forse un pochettino meglio. Probabilmente. È tutto in computer grafica, non mi sembra? Sì. Si è fatto con motion capture, cioè gli attori ripresi. Esatto, sì. Mm-hmm. Diciamo il 3D, non lo so, era il primo film che vedevo in 3D, e potrà dirmi di più, ecco, aspetto Alice nel Paese delle Meraviglie, forse quello potrà... Faccio un attimo, più che lo sborone, segnalo quanto sono rincoglionito. giusto, poco prima che iniziassimo a registrare, ho prenotato per andare a vedere Avatar in 3D all'IMAX a Londra. E non sarei l'unico, tra l'altro, non è l'unica passione, Left 4 Dead 2 non è l'unica passione che ti unisce a Moioli, a quanto sì, pare. E per capirci, comunque, nel senso, il film usciva credo oggi o domani a Londra, e io posso andare ovviamente solo nel fine settimana, perché non mi prendo le ferie per andare, già spendo abbastanza. Sono riuscito a prenotare tipo a fine gennaio, perché prima dei fine settimana era tutto pieno. D'altronde l'IMAX, insomma, e deve essere uno spettacolo. Sì, sì. In effetti anche Avatar è uno di quei film, secondo me. Non ho mai visto niente in 3D all'IMAX, però ho visto un paio di film all'IMAX e soprattutto ho visto quella merda mostruosa di Transformers 2, che però aveva tre scene girate col formato IMAX, ed è veramente una roba che ti devastli. Io ho visto il trailer al cinema in 3D di Avatar ed era veramente, veramente bello. Invece parlando di IMAX, mi sarebbe sempre piaciuto vedere il Cavaliere Oscuro, perché hanno girato diverse scene in IMAX, quella d'essere. Fa una scena, perché proprio in altezza è quella cosa ti devasta. Poi l'ultima cosa, che sono le canzoni degli Zio e Matitos. Ah, fantastico. Ne consiglio soprattutto tre, che sono Ezio Stimato, Riunione di Condominio e Fai la Cosa Giusta. Li trovate su YouTube, eppure nel loro sito, che però non conosco, lo scoprirò ora. Beh, io li ho visti proprio geomaditos.com. Io li ho visti 30 secondi prima di registrare e mi sono ammazzato dalle risate, fantastico. Sono straordinario. Sì. Bene, Andrea, tu cosa ci consigli? Allora, volevo segnalare La Battaglia dei Tre Regni, che è l'ultimo film di John Woo, è uscito in Italia, credo, ottobre o novembre, non mi ricordo di preciso, ed è basato sul Romanzo dei Tre Regni, questa specie di poema epico su fatti storici della Cina, ed è quello su cui poi sono basati i Dynasty Warriors, per capirci. E il film sembra un po' Dynasty Warriors, nel senso che ci sono i personaggi in comune poi anche con i videogiochi, che sono questi generali che quando scendono in battaglia, in queste epiche scene di guerra, fanno un macello, cioè ammazzano decine di avversari da soli. Però non è tipo La Tigre e il Dragone, c'è qualche concessione, ma non c'è la gente che svolazza in giro e cose del genere. Mi è piaciuto molto, ma io volevo segnalare, soprattutto per chi non lo sapesse, che in origine è tipo Kill Bill, sono due film, volume 1 e volume 2, che durano 2 ore e 20 ciascuno. Minchia. E in Occidente sono un film solo da 2 ore e 20, cioè praticamente ne hanno tolto metà. Come sempre noi siamo dei signori. Ho guardato le scene, cioè perché io ho visto la versione cinese e ho letto quali scene hanno tolto, e in effetti hanno tolto cose che ci può stare, perché sono cose magari... Hanno tolto la metà brutta, hanno tolto, diciamo. Ma al di là che è brutta, cioè hanno tolto robe molto cinesi che ti sembrano anche un po', cioè, che cazzo stanno facendo con questo genere di cose qua. Però vabbè, se a uno interessa l'argomento, è interessante vedere la versione integrale, e ho visto che il distributore italiano hanno annunciato che in DVD e in Blu-ray uscirà anche la versione integrale, quindi uno magari può vedersi quello. Il film è molto, cioè c'ha delle cose, non è proprio bellissimo, però ha delle scene veramente incredibili di battaglia, delle idee bellissime. Non è necessario per comprarlo, visto che appunto uscirà la versione italiana, però segnalo comunque che se interessa comprare film dall'Oriente, i film tra l'altro di Hong Kong sono dezonati e hanno sempre i sottotitoli in inglese, io mi sono rivolto a un sito tedesco che si chiama www.charmes.biz, poi magari mettiamo il link, non lo so, sì. Che è un sito tedesco che è comodo perché ti spediscono dalla Germania e quindi non devi passare per quella vergogna nazionale che è la dogana italiana, ed è, in questo è molto comodo, sono veloci e bravi. Tra l'altro, già che ci siamo, penso sia più famoso, però c'è axelmusic.com, che è sempre tedesco e fa la stessa cosa con roba di importazione americana, quindi film e videogiochi, e anche lì, se vuoi comprare roba dall'America e non vuoi correre il rischio di aspettare 2 mesi o proprio di non ricevere nulla, conviene passare da loro. Che, tipo proprio... God of War Collection per PS3, diciamo. Insomma, per esempio. Per esempio. Bene, allora io sarò velocissimo. Volevo segnalare un sito che navigo spessissimo, che si chiama myextralife.com, che è un sito di vignette praticamente su videogiochi e film e quant'altro, molto molto divertenti, che non sto a spiegare perché di spiegare le vignette a parole, peraltro in inglese è impossibile. Poi consiglio un gruppo tra i miei preferiti, che come si chiamano, come si dicono loro, sono la miglior cover band del mondo, ovvero i Me First and Gimme Gimmies, che è un gruppo fantastico, peraltro consiglierei di cercare O Sole Mio su YouTube, fatto da loro, che è eccezionale. Oltretutto hanno una pronuncia in italiano fantastica, un gruppo punk rock, attenzione, musica velocissima e molto melodica. Poi invece vorrei segnalare io un libro che ho ripreso in mano per caso di Lovecraft, ovvero Le Montagne della Follia, che è un romanzo, insomma adesso non so se avete presente chi è Howard Philip Lovecraft, però è quello che ha ispirato diverse canzoni di Metallica, un sacco di tutta la mitologia su Cthulhu, tra cui anche alcuni videogiochi se non erro, e comunque scrittore degli... fine 800 americano, inizio 900, sfigatissimo, insomma un Leopardi americano, se vogliamo, come fisico, come tristezza, che appunto ha scritto una serie di romanzi creando un universo di dei e di mostri fantastico, e questo secondo me è il romanzo più bello, appunto Le Montagne della Follia, dove si racconta di una spedizione in Antartide dove le persone che fanno questa spedizione trovano delle costruzioni ciclopiche lì da milioni di anni, insomma veramente veramente molto inquietante, però bello. E infine vorrei ricordare a tutti che mi pare prima di Natale dovrebbe uscire la nuova puntata dei Griffin in America, che si chiamano Family Guy, che è il secondo episodio della trilogia di Guerre Stellari rifatta da loro, che si chiama Something Something Something Dark Side. Come sempre geniali, e quindi insomma io non vedo l'ora di vedermi questo questo Imperio Colpisce Ancora fatto dai Griffin, perché veramente sono... Madonna, il primo era bellissimo, la scena del divano, sono stato male. sono fantastici. Sì, comunque tutto qua. Oggi oltretutto abbiamo anche una mail a cui rispondere, Siamo commossi. Peraltro una domanda difficilissima. Io sfrutterei il fatto che c'è Pierpaolo, che insomma, tra Andrea, Pierpaolo e Gianluigi, che sicuramente siete più preparati di me, Federico Sagheddu ci chiede se avete visto qualcosa del Kingdom Hearts, quello per PSP, Birth by Sleep, che credo dovrebbe uscire l'anno prossimo. Qualcuno ha visto qualcosa di questa versione? Io non credo ci sia ancora niente in giro. Io me ne guardo bene. Certo. Purtroppo caschi male anche su di me, perché io già non sono un amante di Final Fantasy, figurati quello per PSP se vado ad inseguirlo. Quindi... Ma questo è Kingdom Hearts, quello con i pupazzi. Sì, scusami, volevo dire, non sono un amante dei titoli in generale Square Enix, Kingdom Hearts barra Final Fantasy, quindi figurati... Cioè, in generale, piace, le... Sei come chi chiama videogiochi, cioè il tipo... Per te il GDR giapponese è Final Fantasy, non è che sono i GDR. Esatto. È come i videogiochi sono la PlayStation, quello. Io per esempio ho sempre fatto fatica a capire, non ho mai giocato un Kingdom Hearts, però vedo che sono giochi molto quotati. No, aspetta, sono bellissimi. Sì, sono Kingdom Hearts 1 e 2 sono bellissimi. Sì, sì. Questo capitolo qua non me ne frega proprio niente. Ma come si fa a mettere... Io voglio Kingdom Hearts 3 per console da casa, quello lo voglio. Come si fa? Aspetta, scusate, ma è quello che è tipo appena uscito, sta uscendo in questo periodo? Sì. È quello per DS? Allora, io posso dire che... No, per DS è quello tipo... Che è uscito americano. C'ha quel nome lì, 358. Ah, no, è un altro. Mi sono perso, vabbè, allora niente. Allora basta, non posso più dire quello che stavo per dire. E la seconda parte della domanda ci chiede cosa ne pensiamo di Gantz The Duel, che è un... credo sia un gioco online... Io ho una risposta, mi rivolgo a questo lettore ascoltatore, cosa ti ha fatto pensare che noi siamo competenti e possiamo risponderti? Cioè, nel senso, ascoltando i precedenti episodi. Ma soprattutto, che stronzo è Gantz The Duel? Mi sono trovato in difficoltà perché non sapevo neanche che esistesse questo gioco, quindi non ho idea. Mi spiace, Federico. Io non so assolutamente cosa sia. E qua abbiamo esponenti delle massime testate italiane e siamo un po' nei guai. Ho fatto una ricerca su Google e il secondo risultato è una news di Mondo Wrestling Forum Free.it. No, è un gioco online di qualche 3 anni fa. Però nel forum di Mondo Wrestling, nella sezione videogame e tecnologia, parlano di Gantz The Duel. Ah, ecco questo. Gantz The Duel è conosciuto anche con il nome di Gantz Online, è un gioco online gratuito. Guarda quando sono inviata, 12/4/2006. No, infatti, comunque consigliamo di andare su Mondo Wrestling, che lì ci sono delle informazioni. Che è meglio di noi, senza ombra di dubbio, questo punto di vista. Comunque per Kingdom Hearts Birth by Sleep, intanto cercavo anch'io, 2010 sì, è il capitolo, quello per PSP di Kingdom Hearts, che si va ad affiancare al 385/2 Days, che è uscito su DS. Poi mi spiegherete come si fa a mettere insieme Cloud e Topolino. Però... Si può, lascia stare. No, si può, sono belli Kingdom Hearts, scherzi a parte. Bene. Più che altro come si fa a dare un titolo come 385/2 Days, non è anche quello, non è il massimo, Ci avranno pensato 5 anni. 358, poi non sono 358/2 dovrebbe essere. Sono i giorni lavorativi del programmatore. Sono le ore di gioco. Minchia. Suicidio. Va bene, allora io direi che siamo potuti anche quasi essere giunti alla fine. Ringrazio innanzitutto Pierpaolo per la pazienza e la gentilezza di essere stato nostro ospite, e se vuoi dire qualcosa, lasciare i contatti, fai pure. Allora, dato stragrazie a voi per la pazienza, non io per la pazienza quanto a voi, più che altro per avermi sopportato. Allora, sì, contatti perché sei arrivato in ritardo, diciamo. Sono arrivato in ritardo, sono logorroico e tutto il resto, quindi assolutamente grazie. Allora, multiplayer.it, dove appunto lavoro, se volete leggere i videogiochi, però evito di fare troppo pubblicità in proposito. Invece per il podcast, anche noi facciamo podcast settimanale, cioè noi lo facciamo settimanale abbastanza continuativo, tra l'altro proprio questa settimana dovrebbe saltare per rimanere il tema della nostra continuità. Ho notato che ultimamente il pomeriggio è già pronto, Sì, non so come cazzo fai, però. Qui ci sta, c'è la gente che lavora, no? Come si dice? No, effettivamente siamo riusciti un po' ad accelerare, però questa settimana probabilmente salta perché ci sono tutti i caporedattori qui a Terni, stiamo facendo una settimana di riunioni, stiamo cercando il famoso gioco dell'anno anche noi da tirare fuori, però tranne questo, insomma, il podcast è settimanale, lo trovate ovviamente su iTunes. Se cercate multiplayer.it c'è quello audio, che è soltanto quello che facciamo settimanalmente, più svariati altri video, e poi altrimenti su multiplayer.it/podcast lo potete scaricare o sentire in streaming anche da lì. Direi basta, anzi grazie veramente per l'ospitalità. Figurati, dovere. Voi ragazzi volete salutare qualcuno? Saluto il Duomo di Milano io. E anche la Madonnina che ci sta sopra. Sì, sì. Comunque io vorrei solo dire a chi ci ascolta di non spegnere subito qua, perché la sigla finale non sarà la solita, ma sarà una bellissima versione natalizia di Noel Noel fatta da Bad Religion. Quindi cazzo che culo, eh? Bellissima, guarda, è veramente bellissima. Che tra l'altro si può ascoltare solo qua, ce l'abbiamo in esclusiva. No, fantastico. È quasi introvabile come pezzo, quindi poi mi verrà Greg Griffin a bussare alla porta. Oh, comunque, vabbè. Vi ringrazio tutti, allora ci sentiremo poi l'anno prossimo. Buon Natale, buon anno, ubriacatevi e fate tanto sesso. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Come al solito i riferimenti al Tentacolo Viola sono iltentacoloviola.splinder.com, che è il blog ufficiale dove potete trovare sia gli episodi che il link alla pagina Facebook dove diventare fan, Twitter a twitter.com/iltentacolo e anche su thefirstplace.it. Se volete scriverci, cosa che ci fa sempre tanto piacere, fatelo a iltentacoloviola@gmail.com. Vi ringrazio, ciao a tutti e all'anno prossimo. The first Noel, the angels did say, was a lonely poor shepherd asleep at